La zanzara con Alessio Maurizi. 18 e 5 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, anche questa sera insieme fino alle 20:30. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta come ogni sera. 349-238-6666 per i vostri sms, potete scriverci anche alla zanzara@radio24.it oppure cercateci anche sul nostro profilo di Facebook. Allora iniziamo anche questa sera con gli spunti per i vostri interventi. Non so se abbiamo nel frattempo i titoli, sì, ce li abbiamo, titoli, Sky TG24. Riforme, no, incontri separati, chiede la Camusso, è scontro CGL Governo. Del lavoro parla Napolitano, dice ripensare al sistema di ammortizzatori sociali. Bersani a Sky TG24, no a altre manovre, Sacconi, il problema è la disoccupazione. 16.000 euro più spese, i parlamentari italiani sono i più pagati d'Europa. Attacchi a Equitalia, si indaga tra gli anarchici, polemiche sulle riscossioni. Orari liberi per i negozi, piacciono ai clienti, molto meno ai commercianti. P3, la Procura di Roma chiede il processo per Dell'Utri, Verdini e Carboni. Parte dall'Iowa la sfida repubblicana Obama, candidati tutti d'accordo, nessuno aiuta l'Europa. Come comoda la poltrona, ecco perché sono tutti quanti là incollati. Come comoda la poltrona, e questa canzone ovviamente parla di poltrone ben remunerate, tra l'altro. Oggi su tutti i giornali il resoconto parziale della commissione istituita per fare i conti in tasca ai politici, ma non solo, perché la commissione presieduta dal presidente dell'Istat Giovannini metterà sotto la lente di ingrandimento anche gli stipendi di alte cariche pubbliche, oltre che quelle elettive a livello locale. Ma nel mirino ci sono per esempio anche i magistrati, credo, della Corte dei Conti, tutta una serie di tutto quello che viene pagato sostanzialmente con i soldi pubblici dei contribuenti. Si sta cercando di fare una, lo sapete, insomma, una delle somme, delle medie con gli altri paesi europei per capire se ci sono degli sprechi. Apriti cielo, perché tra un po' faremo un'intervista, non sarà facile, lo so, come un parlamentare. Già fioccano delle reazioni sorprendenti. Qua le cifre parlano chiaro, la media degli stipendi dei parlamentari italiani è più alta di quella degli europei, però non c'è niente da fare, loro sostengono che non è così. Cominciamo a sentire il presidente della commissione, il presidente dell'Istat Giovannini, che spiega un po' il senso di questo lavoro e dice andremo avanti fino al 31 marzo. Sono oltre 31 le tipologie di enti, compresi anche le province, i comuni, le regioni, che noi dobbiamo prendere in considerazione. Qui la differenza è ancora maggiore, ci sono ad esempio alcuni enti in Italia, pensiamo al Consiglio Superiore della Magistratura, che non hanno eguali in altri paesi, oppure ci sono enti che formalmente hanno lo stesso titolo ma che in realtà svolgono funzioni molto diverse. Per questo la Commissione sta ancora lavorando, abbiamo tempo fino al 31 marzo per dare i risultati definitivi. Allora, uno sguardo alle cifre e l'indennità del parlamentare, 11.283 euro in Italia. Guardando alle cifre che ci sono oggi sui giornali, che riportano questi dati della Commissione, non c'è un altro paese dove l'indennità sia così alta. In Francia 7.000, in Germania 7.600, in Spagna 2.800, nei Paesi Bassi 8.500. Vabbè, e sono tante le voci, no? Che potremmo elencare. E tra poco andremo a vederle, ma sentiamo ancora Giovannini, che dice abbiamo misurato delle differenze con gli altri paesi europei e su queste la Camera e il Senato poi saranno chiamate ad agire. non possono essere utilizzati in modo aritmetico, cioè automatico. D'altra parte i presidenti di Camera e Senato hanno chiaramente indicato che proprio in questo mese utilizzeranno questi dati per entrare nel dettaglio e fare delle nuove proposte. La nostra evidenza mostra le differenze e quindi sono sicuro che queste differenze verranno utilizzate per prendere le decisioni. Questo odore sgradevole nell'aria, che cos'è? La canzone l'abbiamo scelta apposta, anche se i riferimenti sono particolarmente sgradevoli. Dicevamo che non sarà facile affrontare questo argomento. Sentiamo una prima reazione sorprendente, il questore della Camera Colucci. Sentiamo che cosa dice. Il parlamentare italiano prende meno di tutti gli altri paesi, quindi sono dei dati sbagliati. Noi arriviamo a 6.300 euro. Questo è sostanzialmente la paga del parlamentare italiano. È inutile che danno dei dati sbagliati perché disinformano l'opinione pubblica. Hai sentito bene? Ma su questo genere di reazioni torneremo tra un attimo. Prima vorrei sentire l'opinione di due attualmente outsider della politica italiana, Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, e Storace. Sentiamo Renzi. Io non ho, cioè io credo avere 1.200 euro in banca, se ho visto bene, quindi non faccio investimenti perché ce l'ho, non guadagno, conto un guadagno molto bene naturalmente rispetto alla media degli italiani, e credo che quello che guadagna un sindaco, 4.300 euro netti al mese, sia tanta roba. Anzi, bisognerebbe pagare i parlamentari così. Cioè, secondo me i parlamentari dovrebbero essere pagati quanto il sindaco di una grande città, non di più. In realtà i parlamentari vengono pagati 15.000 euro netti al mese, o i consiglieri regionali vengono pagati il doppio dei sindaci. Dichiarazioni di Renzi di circa un mese fa, che però sono state ripetute in queste ore pari pari ad un settimanale. Renzi che quindi dice: dovremmo andare allo stipendio dei sindaci anche per i parlamentari, sarebbe un bel risparmio, 4.300 euro. Storace adesso, l'ex presidente del Lazio. Oggi il parlamentare è una condizione diversa rispetto al passato, è nominato, lavora sostanzialmente poco perché deve dire obbligatoriamente sì al governo dei tecnici, guadagna troppo. Io credo che con 5-6.000 euro al mese sarebbero più se sufficienti a garantirsi un tenore di vita, e speriamo che entro la fine del mese i presidenti delle Camere si decidano. Quindi insomma, due opinioni, due outsider, e al di là dei confronti con gli altri paesi europei dicono insomma 4, 5, 6 mila euro per un dirigente di quel livello andrebbero benissimo. Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, in un dibattito ripreso dalle televisioni, ricorda il bel gesto, però rimasto isolato, del presidente del Consiglio Mario Monti, forse pochi se lo ricorderanno, che rinuncia al suo stipendio. Monti ha fatto un gesto quando è diventato Presidente del Consiglio, come sapete non ha preso lo stipendio e lo ha lasciato così. Ma per esempio a me mi ha colpito che questo gesto sia rimasto isolato. Tu fai un gesto di bandiera e tutti gli altri ministri hanno fatto finta di non... insomma, strano, no? Una cosa che mi ha incuriosito, che buffa cosa, cioè il preside dice: guardate, facciamo un sacrificio, la scuola è in difficoltà e io quest'anno mi dimezzo lo stipendio. I professori, lo dice in consiglio istituto, i professori si voltano dall'altra parte e fanno finta di niente. Che curiosità, che stranezza. Così Paolo Mieli a Cortina incontra. Ancora un commento sulla commissione che sta mettendo a punto questi dati sugli stipendi dei parlamentari italiani, e Mieli dice insomma le commissioni non servono a niente, sono piene di incompetenti. Qua però forse, non so se lui lo sa, ma c'è il presidente dell'Istat, quindi dargli dell'incompetente è un po' fortina come dichiarazione di Mieli, ma tant'è, sentiamo. Il taglio dei deputati, il taglio degli stipendi dei deputati, e sono gli ultimi dei problemi del taglio dei costi della politica. Mi hanno risposto: sì, vedremo, adesso ci sono delle commissioni. Ora si sa benissimo che quando si mettono in piedi le commissioni sono cose che servono a degli incompetenti per non fare nulla. Sì, è vero, le commissioni spesso sono piene di incompetenti. Questa in particolare... qualcuno potrà dire serve per dare qualche altro stipendio, però il presidente dell'Istat definirlo un incompetente, non lo so, poi bisogna vedere anche da chi arriva la definizione, forse è un po' troppo. Paolo Mieli gli è scappata così. Salutiamo Antonio Mazzocchi, questore della Camera dei Deputati, onorevole naturalmente del PDL, buonasera. Io ho detto che questa intervista non sarà facile perché so già che avremo punti di vista anzi, diversi su questa questione, perché ho visto che lei già ha fatto una dichiarazione. Sì, però invece al sindaco Renzi e dire che sono d'accordo sui 4.200, avendo però la sua segreteria, le sue macchine, i suoi benefit, siamo perfettamente d'accordo. Così quando io ho molto rispetto per Monti, l'abbiamo votato, Monti ha rinunciato allo stipendio da Presidente del Consiglio, ma non ha rinunciato allo stipendio di senatore a vita, né quantomeno alla pensione che prende dall'Europa, per cui tutti questi sacrifici... A qualcosa ha rinunciato, insomma, ed è uno dei pochi. Io parto da un principio che anche i deputati debbono... Tra le altre cose mi permetta di dire che la Commissione Giovannini sta lavorando non bene ma benissimo, sta tentando di trovare un discorso che possa trovare i deputati con un'indennità che segue la media europea. Tenga presente però una cosa che i giornali non riportano mai, che i deputati italiani pagano 45% di fisco. Aspetti, Mazzocchi, l'addizionale regionale, per cui il deputato, mi spiace di contraddire l'amico Colucci, il deputato italiano al netto guadagna 4.685 euro. Quindi fatta, chiusa, aveva ragione Renzi, guadagnate come il sindaco. Esatto, ma aspetti, c'è un piccolo momento, Mazzocchi, momento. Aspetti un attimo perché dobbiamo fare la pausa per il traffico e poi affrontiamo per benino con calma tutte le voci di questo lungo elenco di costi dei parlamentari italiani. Eccoci qua di nuovo in diretta con Antonio Mazzocchi, questore della Camera dei Deputati, onorevole del PDL. L'argomentazione sulla pressione fiscale faccio finta di non averla nemmeno sentita, Mazzocchi, perché sa perché? Perché no, aspetti, le spiego perché faccio finta di non averla sentita. Perché la pressione fiscale è la stessa anche per gli altri dipendenti italiani. No, mi faccia finire, Mazzocchi, se no finiamo che ci parliamo uno sull'altro e io non voglio litigare con lei, però voglio esprimere dei punti di vista. La pressione fiscale che c'è sugli stipendi dei parlamentari italiani è la stessa che c'è sugli stipendi dei dipendenti italiani, cioè di tutti gli altri lavoratori, però sappiamo che la media dello stipendio, che ne so, di un operaio italiano è più bassa di quella di un operaio tedesco o francese, e allora ecco che l'argomento sulla pressione fiscale decade immediatamente. Ma lei sta scherzando? No, non sto scherzando. Questo è oggettivo, Mazzocchi. Che un operaio possa fare il deputato. Ma non auspichi, però è un dato di fatto. Lei forse dimentica che quando è stata fatta il Parlamento italiano si è fatto in modo che non entrassero i baroni o gli industriali, come qualcuno vorrebbe fare entrare adesso. Ma questo non c'entra nulla, è una cosa che riguarda quando è stato fatto. Io ne parlo di oggi, Mazzocchi. Oggi un dipendente pubblico italiano guadagna, Mazzocchi. Io le dico al dottor Mieli che io vorrei guadagnare quanto guadagna lui come direttore di un giornale. Oggi suo impegno sia maggiore. Quello che io ho detto è ineludibile, cioè un dipendente pubblico italiano guadagna meno di uno tedesco o francese, quindi fatto il paragone, la pressione fiscale addirittura vi gratifica, vi penalizza alla rovescia, cioè non vi penalizza. Ma noi non siamo dipendenti, noi siamo rappresentanti. Non importa, qua parliamo di retribuzioni. Comunque lasciamo perdere questo argomento, poi lei ci tornerà sopra se vuole. Invece, no, ma le pare, io le voglio dire, faccio esempio, quando si parla dei collaboratori, in Italia diamo 3.600 euro, in Francia 6.000, 15.000 la Germania, per cui tutto questo discorso non esiste. Io quando si a livello europeo, esempio pratico, il rapporto con l'elettorato danno 21.209, perché la Commissione Mazzocchi, l'ha detto lavorando. Giovannini che guadagnate di più della media europea, non lo dico io, Giovannini è presidente dell'Istat, non è un cretino. No, è una persona in gambissima, sta lavorando benissimo, tanto che Giovannini che cosa vuole fare? Quello che è stato fatto a suo tempo, quando si fece il Parlamento italiano democratico dopo il fascismo, e cioè collegare lo stipendio del deputato a una carica dello Stato, a suo tempo fu collegato, non a caso, al presidente di sezione di Cassazione. Poi dal 2007 abbiamo abolito perché i magistrati hanno aumentato eccessivamente, anzi abbiamo fatto due volte una diminuzione del 10%, quest'anno un'altra diminuzione, però le voglio dire guai se si pensasse che il deputato sia soltanto una persona che deve guadagnare quanto un dipendente pubblico. No, io non ho parlato, io non ho detto questo, Mazzocchi. Non faccia con me i giochini di parole, perché no, io non voglio litigare con lei. Ma lei intervista... No, io non sono di parole. Io ho fatto un discorso che lei ha detto: dobbiamo dire che la pressione fiscale sugli stipendi dei parlamentari italiani abbatte, esatto, il reddito in un modo che non avviene negli altri paesi. Non d'accordo, dico io, però questo avviene anche per l'operaio e per il dipendente pubblico, che guadagnano meno della media europea. Quindi questo discorso non ha nulla, non serve a nulla. Non è Mazzocchi, che il malcomune mezzo gaudio. No, il malcomune mezzo gaudio. No, fa finta di non capire, va bene. Non importa, parliamo dei trasporti, per esempio. Perché trasporti in che senso? Trasporti italiani o trasporti dei quello che io leggo dai dati della Commissione, io vedo libera circolazione ferroviaria, autostradale, marittima e aerea, mentre in altri paesi ci sono rimborsi ad hoc oppure cifre contingentate, e poi c'è anche la cifra di 1.331 euro sempre mensili per i trasporti, che non ha confronto, non esiste in nessun altro paese, per esempio. Sì, però le voglio dire che alla fine il vero problema italiano sa qual è? Che servizi. Il vero problema italiano siete voi. Cioè, perché non mi risponde alla domanda sulla questione dei trasporti? Vogliamo abolire questi 1.300 euro forfettari dati anche a un parlamentare che non ha viaggiato? Però perché... le voglio dire, sì, che alla fine lei al netto, lei vede che in Germania guadagna 14.712, in Gran Bretagna 10.581 e in Parlamento europeo 21.209. Per cui questi sono i dati. Ma allora Giovannini ha sbagliato? No, Giovannini non ha sbagliato. Giovannini sta tentando, perché è una persona in gamba e per bene, soprattutto. Perché non ha completato il lavoro, secondo lei? Che lo doveva completare entro il 31 dicembre? Perché dice che i dati sono difficili da confrontare. Sì. Di applicazione di una media europea. Comunque, io posso dire a lei e ai radioascoltatori: quello che la Commissione Giacomini e Giovannini stabilirà per noi è legge. Che le posso dire più di questo? Però io so che poi alla fine spetta, almeno quello è quello che si sente dire, spetta alla Camera e al Senato ridurre lo stipendio. La Camera e il Senato sono rispettosi di questa iniziativa presa dal governo Monti e di questa commissione, per cui se la commissione Giovannini stabilirà che i deputati dovranno avere una diminuzione del tot, sarà fatta una diminuzione del tot. Comunque però dobbiamo stare attenti, sì, a una cosa, mi consenta, certo, che c'è una deriva per me politica, ideologica, che vuole soprattutto colpire la cosiddetta casta. Allora stiamoci attenti, perché noi dopo il fascismo abbiamo fatto in modo che un operaio preparato possa fare il deputato. Oggi lei sa che col sistema contributivo che abbiamo approvato, lei sa dopo 5 anni quanto guadagna un deputato a 60 anni, a 65, 800 euro, e dopo due legislature le guadagna 1.300. Allora, sì, però Mazzocchi, lei non mi faccia intenerire. Così, perché 800 euro per avere fatto una legislatura di... Sono d'accordo. Una legislatura, una tutta una vita, per farsi una pensione. Io le faccio un esempio: un bravo ragazzo tipo Renzi, che a 30 anni fa il deputato e che non ha ancora un posto di lavoro, per due volte ce la fa, alla terza volta non ce la fa. Fino a 60 anni non prende una lira, fa il barbone. No, non fa il barbone, fa quello che faceva prima, fa il sindaco, no, fa un altro lavoro. Un ragazzo di 30 anni ancora non ha trovato posto di lavoro, che mi sta dicendo? No, ragazzo di 30 anni si è laureato appena. Sì. E quindi uno che a 30 anni fa una legislatura, mi scusi Mazzocchi, ma no, qua siamo, è incredibile. Cioè, lei sta dicendo che uno di 30 anni che fa una legislatura poi nella vita non dovrà lavorare mai più? No, io le dico, se lo fa due volte, poi a 40 anni, voglio vedere come fa a inserirsi nel posto del lavoro, soprattutto in questa situazione. Ma le voglio dire, io ho l'impressione... Però mi faccia il caso di un deputato che ha questo problema, allora glielo pago io personalmente lo stipendio, perché noi abbiamo deputati che sono alla quarta legislatura, è diverso. Faccio un esempio, sono d'accordo, esempio pratico, che... non si può fare doppia professione. Io sono un avvocato, lei andrà a vedere all'ordine degli avvocati di Roma. Io appena eletto deputato mi sono cancellato dall'ordine, non faccio più l'avvocato. Vabbè, questo faccio politico, faccio l'avvocato. Però io, per esempio, adesso mi viene in mente Alfano, no? Qualche tempo fa, sotto Natale, Alfano ha fatto un'intervista a Maria Latella e ha detto: io non vivo di politica, faccio il segretario del partito, ho fatto una legislatura, due, non so. Poi dopo torno a fare l'avvocato, è così che si dovrebbe fare, perché mi tira fuori il caso del parlamentare. No, le spiego, stia attento. Io pure non faccio l'avvocato, ma io non lo faccio da 20 anni. Secondo lei, una persona che da 20 anni con la magistratura, che giornalmente giustamente fa delle nuove sentenze, secondo lei dopo 20 anni uno che non ha fatto l'avvocato può rifare l'avvocato o deve rimettersi a studiare? Cioè, mi sta dicendo che lei rischia di essere un disadattato Per forza, ma scusi, dopo 20 anni che però non faccio la professione. Dopo 20 anni quante legislature sono trascorse? Almeno 3. E allora la pensione di quanto è? Me lo faccia lei il conto. La pensione? Dopo 3 legislature. Esattamente, credo, sui 4.000 euro. E allora non credo che si possa creare un problema per questo. Insomma. No, ma che lei mi diceva ritorni a fare l'avvocato. L'avvocato non lo posso ritornare a fare. No, ma è lei che ha posto il problema di chi poi rimane senza il parlamentare senza lavoro. Ma la pensione c'è. Che credo che dovrebbe essere, anzi, d'aiuto a tutti coloro che vogliono che i deputati non abbiano privilegi. Io dico che se uno fa il professionista, quando fa il deputato non deve fare più il professionista, perché non deve rivolgersi a un altro lavoro dimenticandosi della politica. Io quando sono stato eletto deputato mi sono cancellato dall'ordine. Va bene, però Mazzocchi, lei poi sa benissimo che chi ha fatto il deputato, non dico che gli si aprono tutte le porte perché sarebbe esagerato, però poi... in questo momento no, soprattutto no. Dopo che Grillo ha detto che politici non devono entrare nei ristoranti e nei cinema, pensi un po' che tipo di politica siamo. Magari ma pagando il biglietto. Io quando prenoto e vado con mia moglie in un ristorante, sì, come lo prenoto? Avvocato Mazzocchi, non onorevole Mazzocchi. Perché oggi se lei dice onorevole, dopo questa stampa e alcune trasmissioni, onorevole è sinonimo di ladro. Però guardi, non è solo dopo questa stampa, è anche dopo che dopo anche interviste come questa in cui si vuole un po' l'evidenza, insomma. Io... Ma quale evidenza? Non lo so, è l'evidenza dei numeri, l'abbiamo già detto. Sbagliò De Gasperi, sbagliò Vanoni, sbagliò Togliatti quando fecero un determinato aggancio. No, può darsi che siano cambiati i tempi, può darsi tutto quello che vuole. Ah, sì, sono cambiati i tempi del dopoguerra dove si stava peggio, da adesso, ma lei sta scherzando. Ma... Guardi, il problema, io continuo a dirglielo. Guardi, se lei ha dei problemi a prenotare al ristorante con nome di onorevole, non è mio, è suo, Mazzocchi. Lei vedrà che questo sarà anche direi anche l'atmosfera è tale per cui in Parlamento entreranno soltanto gli industriali, come a suo tempo i baroni, perché gli industriali... Sì, però Mazzocchi, non faccia demagogia, perché se lei mi viene a dire che il problema è che la pressione fiscale erode lo stipendio, il più alto d'Europa, io le dico, è ridicola questa affermazione, ha capito? Perché... Ma scusi, ma l'operaio italiano che paga le stesse tasse che paga lei e che guadagna meno della media europea, allora che cosa dovrebbe fare? Suicidare? Io l'ho detto, mal comune non è mezzo caso, l'operaio italiano bisogna fare una riforma fiscale dove deve pagare. No, ma non è mal comune, lei non è mal comune perché il vostro stipendio è più alto della media europea. Il 50% di tasse, non credo che l'operaio italiano paga il 50% di tasse, più poi abbiamo il cumulo. Io alzo le braccia, Mazzocchi, io non volevo litigare. Casa, a fine anno c'è il cumulo dei redditi, oltre che c'è il taglio già prima. Secondo lei è un fatto e privilegi questi? Non credo, guardi, mi creda. Io gli ho detto, io ho una forte impressione, che in buona fede, sicuramente come lei è in buona fede, come credo di esserlo io, però c'è questa deriva democratica che noi faremo in modo che soltanto gli industriali e i banchieri, non a caso sto dicendo questo, faranno i deputati e i deputati, anzi diranno, noi non vogliamo i soldi. Questa è demagogia, Mazzocchi, dal mio punto di vista, mi scusi. No, non è... Ricorda i baroni, lo statuto albertino, era questo lo statuto albertino, ed era la stessa atmosfera, si ricordi? Pronto? Non so più che dire. Lo so, perché lei voleva attaccare. No, io non voglio attaccare, io volevo ragionare con lei sui numeri, però lei mi tira fuori lo statuto albertino, i banchieri, ma che c'entrano i banchieri? Che ci sta in Italia, non mi dica che lei non sa di questa atmosfera, non mi dica che non lo sa, perché caso lei sicuramente, io ammiro la sua onestà intellettuale, non mi dica che oggi non ce l'hanno quei deputati, mi dica che oggi dire deputato significa dire ladro. Ma allora, Mazzocchi, il problema però è forse bisogna fare anche un po' di autocritica. Se la gente ce l'ha con i deputati, può darsi che i deputati abbiano sbagliato qualcosa, per esempio anche a negare questa evidenza che ci sono nelle vostre retribuzioni, c'erano, può darsi che adesso ci siano meno, ci siamo messi sulla strada giusta, delle cose inspiegabili e Commissione Giovannini alla mano, risulta ancora il più alto della media europea. Anche la politica devono essere fatti. Io faccio un esempio, come quest'ora ho fatto in modo di eliminare i ristoranti e mettere il self-service, dove ogni deputato, ogni giornalista deve pagare i 12-13 euro da tasca sua senza il rimborso della Camera. I giornalisti quest'anno ci sono venuti a costare per il ristorante 363.000 euro. Questo è il discorso, perché abbiamo contribuito anche a questo e dobbiamo fare in modo questo, dobbiamo tagliare i rimborsi ai partiti, dobbiamo tagliare i rimborsi ai... Tra l'altro questo certo è un altro capitolo. No, ma i tagli alla politica sono questi, dobbiamo fare in modo che i deputati non siano più 630 ma siano 350, 400, dobbiamo eliminare il Senato, il doppio passaggio al Senato che non ha significato, questo è il vero taglio alla politica. Dovete farle queste cose, avanti, sì, dai! Sì, però Però se voi continuate a parlare dell'indennità del deputato e dire che il deputato è ladro, questo è il problema. Esempio pratico. Guardi, la commissione Giovannini l'ha voluta, la commissione Giovannini l'ha voluta Tremonti, il suo collega di partito, non è che l'ho fatta io, la commissione Giovannini chi l'ha voluta? L'ha voluta l'onorevole Monti, l'ha voluta e ha fatto bene. Quindi stiamo parlando di questo, ripeto, Mazzocchi. Non... Io stimo tantissimo Giovannini, è una persona pulita, onesta. Noi attendiamo la risposta di Giovannini e le decisioni che prenderà Giovannini, e le posso assicurare, ci risentiamo poi se lei cortesemente mi ospiterà nuovamente nella sua trasmissione, la Camera e il Senato approveranno quanto la Commissione Giovannini dirà. Fantastico, fantastico. Io la ringrazio. Ma sono io che ringrazio lei e tutti i radioascoltatori. Grazie. Buona serata, buona serata. C'è una raffica di messaggi al 349-238-6666, non proprio tenerissimi nei confronti di Antonio Mazzocchi, questore della Camera del PDL, che è stato nostro ospite, che ha in parte ammesso che ci sono dei tagli da fare sugli stipendi dei parlamentari, in parte però ha contestato che gli stipendi italiani, dei politici italiani, siano più alti della media europea, e citava per questo la questione della pressione fiscale. Lontano da me voler fare della demagogia, io volevo ho voluto fare una intervista punto su punto, però insomma sono le cifre che parlano chiaro, ripeto, basta guardarle, ci sono tutti i giornali di oggi, quindi forse Mazzocchi è fin troppo facile dire che se c'è questo discredito sulla classe politica italiana, come lui dice, quest'aria negativa è anche per colpa di dichiarazioni come queste. Vabbè, non ci torniamo sopra. Adesso però adesso abbiamo i titoli dei telegiornali, sentiamo, il studio aperto. Li ha trovati il figlio riversi a terra in un lago di sangue, giallo a Salerno, per il brutale omicidio di una coppia nella loro casa di campagna. Un delitto di inaudita ferocia, dicono gli inquirenti. Il killer ha infierito con almeno 60 coltellate. Crisi e occupazione, braccio di ferro tra Monti e la CGIL sui temi del lavoro, interviene Napolitano, gli ammortizzatori sociali vanno ripensati. Pubblicato il dossier sugli stipendi dei parlamentari, riesplode la polemica, prendono 16.000 euro al mese, sono i più pagati d'Europa. Mi sale continuamente la febbre a 40 e ho dei dolori fortissimi. A studio aperto parla una donna italiana a cui 9 anni fa sono state impiantate le protesi sospette. Ho i linfonodi ingrossati, racconta, e la sensazione di avere dei sassi nel seno. Le Maldive fanno dietro fronte, il business non si tocca, con buona pace degli integralisti islamici. Crollo di prenotazioni, operatori turistici in rivolta dopo l'annuncio della chiusura di saune e centri massaggi considerati luoghi di peccato. E allora la morale può attendere, il paradiso è qui. La questione della liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi, dopo il presidente della Toscana Rossi, anche Renata Polverini, di ritorno dalle vacanze, dice stiamo valutando se impugnare questa cosa perché è una materia delegata alle regioni. La Polverini che abbiamo cercato di intervistare in questi giorni per la questione dei vitalizi agli assessori, che nottetempo, pochi giorni prima delle vacanze, sono stati approvati, suscitando qua e là qualche reazione perplessa, insomma, vitalizi e quindi pensioni assicurate anche agli assessori esterni, cosa che ha fatto sobbalzare dalle sedie parecchi commentatori. Insomma, non siamo riusciti a intervistarla. Adesso c'è una dichiarazione della Polverini, dice impugneremo. Quindi c'è un fronte destra-sinistra contro l'apertura liberalizzata dei negozi. Sentiamo Giuliano Ferrara, non so più dove l'abbiamo preso, che dice è una rivoluzione invece, gli italiani dovrebbero accettarla. I negozi aperti sono una rivoluzione e sono soprattutto una provocazione sociale che dovrebbe essere accettata da tutti noi. Anche a me forse piacerebbe una città con dei suoi ritmi di vita lenti, con come dire, zone di riposo protette per tutti, con vecchie abitudini rispettate. Le vecchie abitudini sono una cosa meravigliosa, si chiamano vizi le vecchie abitudini. Poi dice Ferrara, e io sono perfettamente d'accordo con lui, siamo un popolo immobile e io aggiungo forse c'è anche troppa paura ogni volta che si parla di toccare, di modificare qualche cosa, come in questo caso, perché le argomentazioni che si sentono sono deboli. Per esempio, i guadagni non giustificano le spese, però i negozi non sono obbligati a tenere aperto, quindi se uno fa questa valutazione, il titolare di un negozio non vuole tenere aperto, farà esattamente come prima. Sentiamo ancora Ferrara. Siamo una società immobile, c'è una legge che dice fate, arricchitevi, cercate di aprire bottega e di costruire occasioni di commercio, la grande distribuzione può assumere un sacco di quei giovani sui quali esercitiamo la nostra falsa pietà, produrre, piazzare le merci ed essere competitivi nella concorrenza tra diversi soggetti e quindi migliorare il servizio ai cittadini. Se tutto questo per disgrazia dovesse succedere, ringraziamo il cielo, altro che per disgrazia, l'Italia potrebbe cambiare un pochettino. 824 0024, cari ascoltatori, adesso è il vostro momento di entrare in diretta. Cominciamo con Marco che ci chiama da Padova. Buonasera. Buonasera, salve. Salve, prego. Dottor Marcuzzi. Volevo dire che se il deputato non vuole essere identificato come ladro, secondo me deve rendere per quanto è pagato, come sono i manager delle società private. E nel un altro argomento volevo fare una riflessione sul discorso che io comunque chiamo dal nord-est, vivo a Padova e sono cresciuto a Treviso, ma non sono leghista e spesso i leghisti quando si propongono sono un po' totalitaristi nell'esprimersi, appunto fanno anche una cattiva pubblicità molte volte, non sono rappresentativi e in questo ci potremmo rifare anche al discorso di quanto sono pagate queste persone che ci rappresentano al governo, insomma. Va bene, grazie Marco. Andiamo a Torino, ci chiama Mario, buonasera. Buonasera dottore. Prego. Volevo intervenire riguardo un attimino alla tipologia della sua trasmissione come tante altre. Io ho una lamentela che vi faccio perché credo che ormai la politica non funziona più e basta sentire Mazzocchi, basta sentire il Ferrara perché parla da incompetente per quanto parlava del discorso di prima. La politica non funziona, credo che dobbiamo cercare delle cose nuove perché riorganizziamo la società. La società potete organizzarla, credo, trasmissione come la sua. È importante perché comunque unificate un sacco di gente che a una certa ora vi ascolta e forse avrebbe piacere di sentire cose che servono a risolvere i problemi, che ne abbiamo tanti. Io credo che sono 4 i problemi. Cioè, mi scusi un attimo, però poi le faccio dire quali sono secondo lei i problemi. Non ho capito il legame che c'è secondo lei tra le cose che non vanno e la trasmissione. La trasmissione che è come tante altre, fate tante cose, da palo in frasca, non approfondite poco, io gradirei molto che approfondisse di più quei 4 concetti fondamentali che salverebbero l'Italia. Però, mi crede. Mi scusi se mi difendo un attimo, perché visto che ci sono io. No, però lei sta dicendo che approfondiamo poco. Io credo che siamo ormai, io sto cercando qualche cosa dove pigliare l'Italia per salvarsi o gettargli un attimino. Guardi, abbiamo fatto un'intervista di 10 minuti, un quarto d'ora sulla questione dello stipendio dei parlamentari e qualcosa abbiamo cercato di far capire. Mi perdoni se la interrompo perché tanto poi so che deve andare avanti, così io mi esprimo, poi tanto no. Il problema è questo, che la gente lo sa, che ormai lo sa che sta gente non funziona, lavora male, va a far politica quasi tutti, non tutti, per amor del cielo. Ma purtroppo quei quasi tutti prevalgono quei pochi di buona volontà, per cui la politica va cambiata. Io avrei anche un sistema, probabilmente bisogna far decidere al popolo cosa devono fare questi signori quando vanno lì 4 anni. Deve decidere, dovrete fare questo e questo, facciamo fare votare le cose deve fare la politica, quei 4 anni lavoreranno e devono decidere quello e poi voteremo chi deciderà meglio a risolvere quel problema, perché poi ci investono di 50.000 cose che tanto poi andiamo a finire tutti a... non lo so, poi Ferrara, io ho 70 dipendenti, ho dei negozi, mi perdoni, a Torino hanno aperto nel giro di 10 anni una trentina di centri commerciali, hanno polverizzato senza nessuna regola, mi ascolta? Certo che l'ascolto, io come tutti gli ascoltatori la stiamo ascoltando. Prego. Ho polverizzato drammaticamente il commercio, questo perché non c'è, non perché io voglio difendere il mio settore, assolutamente no, la concorrenza fa bene, sono sempre stato il primo e io ho tante attività nei centri commerciali per cui la concorrenza va bene, ma la concorrenza va gestita, se no signori miei parliamo di che cosa? Di cosa? Uno scannarsi a reciproca senza nessuno. I dipendenti che assumerebbero i centri commerciali guadagnano 600-700 euro al mese, hanno contratti che gli finiscono dopo 6 mesi e li cacciano a calci in culo come cavolo gli fa comodo e piacere. Questo ne si fa corrente tutti. Perché approfondiamo discorsi che non stanno in piedi? Bisogna far tornare il lavoro vero, che non è aprire i centri commerciali, ditegli al signor Ferrara. E però non può neanche essere, però non può neanche essere il piccolo esercizio vero, che non assume più. I centri commerciali, mi perdoni, però mi scusi, non può neanche essere lavoro, sì, non può neanche essere il piccolo negozietto che non assume nemmeno quello, perché è troppo piccolo per assumere, neanche questo può essere una prospettiva, insomma, chi non ha i soldi per investire e aprire un negozio può fare il dipendente in un centro commerciale, ma non può aprire il suo negozio, non può fare il dipendente di un bar perché il bar non ha dipendenti, ho fatto un esempio a caso, insomma, quindi se vogliamo dare qualche prospettiva di lavoro, io non credo che chi lavora nei centri commerciali si potrà lamentare come tutti del proprio posto di lavoro, però negare che sia un'opportunità di lavoro, questo mi sembra sbagliato. Comunque grazie anche a lei, diamo spazio però anche agli altri ascoltatori. Giorgio da Cagliari, buonasera. Buonasera, senta, io prendo spunto dall'ultima manovra del governo Monti sulla macelleria fiscale che ha prodotto per fare questa proposta che potrebbe essere di iniziativa popolare in quanto di iniziativa parlamentare non mi sembra facile. Comunque la proposta è questa, stabilire una volta che il contribuente abbia corrisposto un terzo del suo reddito, stabilire che lo Stato non possa pretendere da lui altri pagamenti a titolo d'imposta, perché se no qua si finisce per divorare e tutto quello che il cittadino produce divorare in imposte. Il che non è un grosso incentivo per produrre, per lavorare. Lei vorrebbe abbassare le tasse al 33% come massima aliquota, era l'ambizione anche di Berlusconi, allora, però non c'è riuscito. Possono lasciare, sì. Si possono lasciare anche le aliquote così come sono, l'interessante è che una volta che il contribuente può dimostrare di aver corrisposto allo Stato il 33% di quello che lui ha introitato, lo Stato non gli possa chiedere per quell'anno di più. Poi un'altra cosa, obbligare il legislatore prima di azionare la leva fiscale per il risanamento dei conti pubblici a percorrere tutte le esistenti strade alternative, dismissioni, privatizzazioni, abolizione degli enti inutili sia a livello periferico che centrale, soppressione di alcuni livelli di governo, abbiamo livelli di governo che sono eccessivi e che non c'è l'eguale in nessun'altra nazione europea, province, comunità montane, circoscrizioni, a che servono? Servono a drenare risorse pubbliche, poi ci vuole l'accorpamento dei comuni, specie quelli di piccole dimensioni, ci vuole bisogna intervenire nella corruzione esistente sia a livello criminale e non, perché si sa che la corruzione divora qualcosa come 60 miliardi. Va bene, grazie Giorgio. Alcune di queste cose tra l'altro sono state proposte e anche si stanno facendo. Penso che l'anno e mezzo che abbiamo di fronte qualche modifica ce la farà vedere, qualche cosa vedremo, qualche cambiamento lo vedremo. perché la scia dell'ultima della manovra estiva del governo Berlusconi e quindi della manovra Tremonti e quello che sta facendo adesso Monti sulle province, sugli accorpamenti, qualche cosa per esempio a livello di enti locali vedremo. Adesso vedremo il frutto di questa commissione Giovannini sugli stipendi dei parlamentari e sono convinto che qualcosa si farà, perché c'è un livello non tanto di intolleranza da parte dei cittadini quanto di impossibilità a continuare a pagare, a sostenere questo livello di spesa pubblica che è certificato, diciamo così, dallo spread. Ma perché volete tenere aperto sempre, dice Lello su Facebook, perché i cinesi lavorino giorno e notte? Dico, ma perché ci avete i cinesi in testa anche quando parliamo di un argomento più ampio? Certo, i cinesi sono nel commercio, ma non sono gli unici. Abbiamo lasciato, sì, l'ascoltatore a Cagliari, quindi adesso andiamo a Bergamo. Alberto, buonasera. Buonasera. Intanto buon anno e complimenti per la trasmissione. Volevo una sua opinione sul fatto che in un paese come l'Italia, in cui un po' di tempo fa ci si indignava perché Sarkozy e la Merkel ridevano su una battuta sul fatto di Berlusconi e così, il capo di un partito si sia permesso di fare le corna al Presidente della Repubblica, praticamente al capo dello Stato, anche Terrone, usando la parola Terrone in modo dispregiativo, e che infatti non è dispregiativo perché Terrone vuol dire lavorante della terra, va bene. Volevo sapere. No, non ho capito, scusi, lei sta dicendo che Terrone non è un dispregiativo, cioè è quella cosa che ha detto. No, Terrone vuol dire colui che lavora la terra, ma il. Grazie per questa nuova interpretazione. Grazie. Che il disonorevole Bossi, perché chiamarlo onorevole non è esatto, si è permesso anche di fare le corna al capo dello Stato e nessuno ha preso, cioè ha preso dei provvedimenti, non so come si può lasciar passare una cosa così. Scusate. Va bene, ha chiamato per questo? Sì. Va bene. Sentiamo se su questa sua indignazione cosa ne pensano gli altri ascoltatori. Maurizio da Prato, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io invece credo che dopo aver sentito il questore Mazzocchi ci sia proprio dell'intolleranza, perché lui veramente le leva dalle mani questa persona. Io non lo so come possa una persona oggigiorno riavvicinarsi a una politica che veramente sta perdendo il senso della ragione in ogni sua proprio angolazione. Io veramente, anzi, innanzitutto voglio ringraziare lei che ha difeso in maniera indiretta, perché la persona, solo lei poteva rispondergli, sì, il popolo della busta paga, perché sentire una persona che si sente falcidiata dal 45% della tassazione, che poi è lui che l'ha creata questa tassazione, hanno avuto 3 anni di tempo per diminuire le tasse, per fare tante belle cose, non hanno fatto un tubo né nulla, anzi noi ora ci siamo ritrovati un governo Monti che fa comodo anche al PDL che faccia queste cose dolorosissime per tutti. E poi un'altra cosa, mi fa veramente tristezza anche che quando si parla di stipendi ai parlamentari tutti, questa difesa spadatratta del proprio orticello venga proprio bifacile, sia a destra che a sinistra, le parla uno che tanti anni che vota a sinistra, però ecco, non sento mai dire una cosa veramente, ragazzi, siamo in un momento di dolore, prendiamo il toro per le corna, facciamo vedere che veramente chi siamo, in maniera da poi fra un anno e passa andare alle votazioni e vedere veramente una classe dirigente in un volto diverso. Ma io non ci vedo grossi margini, sicuramente ci sarà ancora una defezione peggiore che mai, ci sarà un astensionismo assurdo le prossime votazioni, non perché alle persone ci sono annoiate, sì, sì, ma perché ci hanno fatto anche Sì, io penso che il suo intervento, se Mazzocchi ci sta ancora sentendo, dovrebbe capire la questione del clima a cui lui si riferiva, l'aria che tira intorno alla politica, che non è che la creano i giornali, ma la creano anche le risposte che si danno alle domande sui giornali e alla radio. Sentire Mazzocchi per esempio dire sì, Monti ha rinunciato allo stipendio di Presidente del Consiglio ma non a quello di senatore a vita, e lui a che cosa ha rinunciato per ora Mazzocchi? E queste erano le domande che gli stavamo facendo, insomma, per cui è anche una questione di toni a volte. Partire con la difesa spada tratta dicendo ma noi paghiamo le tasse, e le tasse le pagano tutti, quindi va bene, grazie a questo ascoltatore che ci chiama da Prato. Andiamo a Torino, ci chiama Stefano, buonasera. Sì, buonasera. Sì, un po' devo un po' riprendere l'intervento del radioascoltatore precedente, perché sì, in effetti è un po' anticipato quello che avrei voluto dire. Allora, aspetti, se devi ripetere, io nel frattempo prego, la tengo in linea e dico, leggo io un'altra notizia, perché la volevo dire prima, non l'abbiamo detta. Siccome giorni fa avevamo parlato degli aeroporti di Frosinone e Sibari, cioè delle promesse di investimenti o degli investimenti fatti su aeroporti a perdere, come quello di Frosinone, sul quale l'ENAV ha detto che non ha speranza di aumentare il traffico, invece è stato investito dalla parte della Regione Lazio 1.300.000 euro. Il presidente della Calabria Scopellitti vuole investire 30 milioni di euro all'aeroporto di Sibari, perché dice che il problema della Calabria è l'isolamento, e la sensazione invece è che siano tutti soldi, vogliamo dire una espressione tranquilla, buttati via. Oggi la stampa cita il caso dell'aeroporto di Foggia, e anche qua un accordo bipartisan, destra-sinistra, la Regione Puglia che finanzia, non ricordo più quanto, 1 milione di euro, 1,5 milioni forse, che va a sommarsi ad altri incentivi, 15 milioni di euro su un aeroporto. E tenetevi forte, perché la dichiarazione di Domenico Di Paola, che è amministratore della Società Regionale di Gestione degli Aeroporti di Puglia, dice chiaramente che non so cosa farmene di questi soldi, dice, noi non abbiamo aerei da far decollare, perché questo è un aereo dove l'unica compagnia che c'era era la Darwin, una compagnia svizzera, decaduti degli incentivi pubblici ha smesso di servire l'aeroporto di Foggia, che quindi non serve più a niente, 20 passeggeri al giorno, sono stati investiti credo 15 milioni di euro, e anche qua destra e sinistra tutti d'accordo, questo è avvenuto in Puglia, l'aeroporto di Foggia. Se qualche ascoltatore di Foggia ha notizie più rassicuranti su questo aeroporto fallimentare, ce la dica, così ci tira su di morale, altrimenti questa è la notizia. Stefano, prego. Sì, questo, quello che lei ha detto, la notizia che ha dato adesso, non è altro, è la riprova del fatto che adesso non si può penalizzare, però la maggior parte, credo, di queste persone che ricoprono incarichi di alto livello, parlo di livello politico, probabilmente il giudizio che può dare alle persone normali che lavorano sono di totale distacco o abbastanza distacco da quella che è la realtà e la quotidianità di tutti i giorni. Io una domanda che avrei voluto fare all'onorevole che è intervenuto precedentemente era una molto semplice, quella di dire: l'attività di deputato, l'attività di politico non è un obbligo, cioè se uno si sente nella necessità di volerla fare, la fa e pensando di voler svolgere un compito e una mansione nei confronti della collettività, ma non è un obbligo. Quindi se il deputato, credo fosse avvocato, aveva timore che dopo una legislatura dovesse perdere la possibilità di svolgere questa attività, nessuno lo ha obbligato a fare questo mestiere, è stata una sua libera scelta, e di conseguenza così come si fanno tante scelte nella vita, è una libera scelta, ma questo non giustifica assolutamente tutti i privilegi e lo stato di privilegiato che ruota attorno a queste persone. Grazie. Che hanno, sì, vuole aggiungere qualcos'altro? No. Sì. Allora andiamo, grazie, buona serata. Andiamo a Giorgio che ci chiama da Brescia, buonasera. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la sua conduzione, poi mi volevo riferire Grazie. Agli stipendi dei politici. Allora, nessuno ha avuto possibilità di replica, né i pensionati che gli hanno bloccato la scala mobile, né la nuova introduzione dell'ICI, eccetera, eccetera. Allora basta, ci siamo affidati a questo governo Monti, che sembrava l'ultima spiaggia. Non abbiamo motivi per dubitare dell'onestà di questo governo, nonostante tutte le pressioni al quale può essere sottoposto. Perciò, detti delle regole, volete fare i politici, queste sono le regole, non volete farli, state a casa, non si presenterà nessuno, non perderemo molto visto che siamo stati costretti a chiamare dei tecnici. Perciò, se questo governo è la nostra ultima spiaggia, prenda delle decisioni e tutti le devono accettare, perché sennò cominciamo a replicare tutti. Grazie Giorgio, ma è quello che sta un po' succedendo, anche se poi tra mille difficoltà, mille critiche, però come spiegare altrimenti un'alleanza PD-PDL, se non col momento di emergenza? Poi vediamo, uno può essere più o meno ottimista o pessimista, però mi sembra chiaro a tutti a questo punto che una serie di cose che non vanno della politica italiana possono essere affrontate in questo particolare momento. Non vorrei peccare d'ottimismo. Dino da Padova, buonasera. Sì, buonasera a lei, grazie per avermi chiamato. Mi inserisco nello stesso identico filone, aggiungo che di mestiere faccio l'imprenditore e di questi tempi guadagnare i soldi che sta guadagnando l'onorevole Mazzocchi mi piacerebbe moltissimo e farei volentieri il cambio. Aggiungo che se l'onorevole Mazzocchi è così preoccupato di che cosa fa uno dopo che ha fatto uno o due mandati, come mai non era altrettanto preoccupato quando ha votato a favore dell'innalzamento dell'età di vecchiaia delle persone, degli operai che devono lavorare? Poi aggiungo che non è proprio vero che in questo paese si sta realizzando una manovra equa. Come imprenditore annoto che in molti, moltissimi settori, e che sono molti di più di quelli citati, per cui non sono solo tassisti, farmacisti, notai, ma io appartengo al settore delle telecomunicazioni, anche nel settore telecomunicazioni ci sono tutta una serie di norme che impediscono la concorrenza. Dino, dobbiamo fermarci qua tassativamente perché abbiamo il giornale radio. La zanzara. 19:14 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, 824 0024 fino alle 20:30 con i vostri interventi. Allora riprendiamo questa volta con i titoli di Sky TG24. Mercato del lavoro, braccio di ferro, governo sindacati sulla concertazione. Torna a farsi sentire Napolitano, rivedere gli ammortizzatori sociali. E Bersani a Sky TG24 attacca no ad altri sacrifici in nome dell'Europa. La ricetta di Sacconi è ripartire dai contratti territoriali per creare occupazione. Posti della politica italiani, i parlamentari più pagati, ma la Camera smentisce. In Italia è polemica per le dichiarazioni di Grillo, ma aumentano gli scontenti. Blitz dell'ultimo dell'anno a Cortina, controllati negozi e grandi alberghi. Moglie e marito massacrate a coltellate nel Salernitano, si indaga sul movente. Caccia all'anti-Obama, stanotte i risultati dei primi caucus repubblicani in Iowa. Aspettando De Rossi, le prime d'Europa a caccia del centrocampista di Ostia. Sia via sms al 349-238-6666, l'abbiamo già lette, sia su Facebook all'intervista ad Antonio Mazzocchi, questore della Camera, sulla questione degli stipendi dei parlamentari, la commissione Giovannini. Lui si è difeso la posizione ufficiale della Camera col fatto della pressione fiscale che riporta gli stipendi dei parlamentari italiani, dice lui, sotto la media europea. E abbiamo eccepito che le tasse le pagano anche gli operai e i dipendenti pubblici, insomma tutti i lavoratori, anche quelli autonomi, le stesse, che però guadagnano tutti meno della media europea, questo è notorio, quindi un argomento farlocco. Allora Marco su Facebook dice: sono un lavoratore dipendente, quando vedrò il mio stipendio adeguato come i miei colleghi tedeschi, 2400 euro netti, sarò un italiano felice e fiducioso nel mio Stato e nella politica. Avete sentito anche dai titoli di Sky TG24 la serie di controlli a tappeto a Cortina, l'indignazione dei rappresentanti del sindaco, degli assessori al commercio e quant'altri. per questa serie di controlli sotto Natale, durante le feste, hanno paura che allontanino la clientela cortinese. Il capitano della Guardia di Finanza, sentiamolo, di Cortina naturalmente, che difende l'operato della Guardia di Finanza anche se il blitz era dell'Agenzia delle Entrate. Sicuramente Cortina porta un indotto a livello microeconomico e macroeconomico decisamente importante, quindi una lotta all'evasione fiscale deve partire non solo dai grandi centri, dai grandi agglomerati, ma anche da piccole realtà come quella di Cortina Ampezzo e in generale della Concampezzana, quindi Boite e Cadore. Questo a significare che anche le località turistiche, ma non solo le località turistiche, sono importanti per avere un metro, per avere un termometro della situazione anche a livello nazionale. A proposito di pagare le tasse, il commento del segretario del PD Bersani alle frasi di ieri di Grillo, che diceva dobbiamo capire le ragioni di quelli che mettono le bombe a Equitalia perché la situazione è esasperata, e Bersani non è d'accordo, sentiamo. Dopodiché cosa devo dare ragione a Grillo? Cioè devo dare ragione a chi solletica in qualche modo. Ma Grillo dice capire le ragioni, non è che giustifica, dice cerchiamo di capire che cosa sta accadendo. No, cerchiamo di capire. Lei secondo lei giustifica? Siccome ieri ci sono girate delle pallottole, la cosa di oggi è no alle pallottole. Poi discutiamo. Vabbè, già che ci siamo, sentiamo anche Mieli, sempre da Cortina casualmente, Cortina Incontri. A proposito, dice che pacchia fare il Presidente della Repubblica, anzi altro che Presidente del Consiglio, non so perché gli è uscita così, sentiamo. Diventare Presidente del Consiglio in Italia non conta nulla, devi fare una fatica, spendere un sacco di soldi, prendere un sacco di voti e poi hai un sacco di guai e dura poco. Insomma, invece diventare Presidente della Repubblica è una vera pacchia, perché devi fare molto meno, dura 7 anni, ti allunga la vita, dopo un po' tutti ti dicono che sei a metà fra un santo e un beato. Tutti dicono quando vedrete Paolo Mieli Presidente della Repubblica capirete perché è avvenuta. Guardate, quella cosa io accetterei di corsa, ho detto, ma di corsa però. Sembrava quasi un commento alla Berlusconi, che per anni si è lamentato che il Presidente del Consiglio non conta nulla, ha un sacco di grane, e questo commento di Mieli, quasi un commento fotocopia. Già che ci siamo, tra i commentatori sentiamo anche Severgnini, che definisce questo governo di Monti un governo, il governo della badante. Io questo di Monti lo chiamo il governo badante, perché ha dovuto intervenire quando una politica anziana e non autosufficiente di fatto si è resa conto di aver bisogno della badante, e la badante Monti è stata messa lì dalle babysitter fuori Bruxelles, Washington. 824-0024 per intervenire in diretta anche questa sera fino alle 20:30. Adesso vogliamo parlare dell'argomento liberalizzazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi, che sta facendo discutere perché ci sono delle contrarietà. Ne vogliamo parlare con Domenico De Masi, sociologo. Buonasera. Buonasera a voi. Sociologo del lavoro, sociologo di tante cose, a lui si deve anche un'analisi in questi anni di una società post-industriale che cambia, una società, lei dice, dove bisognerebbe dare più spazio all'ozio, l'ozio creativo, un tempo senza l'orologio che scorre, tutta una serie di concetti che in questi anni, devo dire, io personalmente ho seguito con un certo interesse, mi sembra il tentativo di capire la società che cambia. Sono rimasto, le dico la verità, De Masi, sorpreso oggi quando ho visto l'intervista sulla Stampa in cui lei alla questione liberalizzazione degli orari dei negozi si diceva contrario. Il titolo dell'intervista, forse un po' forzato, ma dice una riforma inutile che non servirà proprio a nessuno. Perché secondo lei questa cosa qua non servirà a nessuno, De Masi? Ma intanto potremmo chiederci a chi servirà. Ci saranno delle commesse che dovranno lavorare anche di notte, ci sarà qualcuno che andrà a comprare, che so, una rosetta di pane fuori orario e poca altra roba, perché la vera lievitazione dei consumi si ha quando ci sono i soldi da spendere. Questo è un momento invece di vacche magre, i soldi sono pochi e possono aprire i negozi a qualsiasi ora non è l'orario che spinge a comprare. Questo mi sembra un ragionamento sicuramente sensato, perché c'è, certo, ogni famiglia fa i conti con la propria capacità di spesa, quindi non è semplicemente l'orario d'apertura del negozio, però io credo che invece la questione dell'apertura dei negozi anche in orari diversi dall'ordinario possa segnare un punto, quantomeno potrebbe essere, ecco, vediamola così, un lato positivo del consumismo. Ne abbiamo tanti negativi, un lato positivo potrebbe essere questo, anche perché il consumismo è un fatto negativo, sì. Significa praticamente entrare in un negozio e spendere 4 quando in banca si ha 3. È quello che hanno fatto gli americani per tanti anni. E questo però ce l'abbiamo già, questo noi. Rischio qua, De Masi. Non è che, sì, che ce l'abbiamo adesso, che possiamo andare a comprare il panino alle 10 di sera. No, però i negozi lo incentivano. Tenga conto di una cosa, che noi abbiamo $35,000 pro capite, la Cina ha $3,700 pro capite, il Brasile ha $7,000 pro capite. Cioè noi abbiamo una situazione mondiale in cui da una parte ogni paese è interconnesso con tutti gli altri e dall'altra noi abbiamo accumulato una ricchezza solo in parte meritata, a quanto pare, mentre questi paesi ormai bussano alle porte. Nel 2020 la Cina avrà 450 milioni di automobili che andranno a benzina, quindi noi che eravamo abituati a pigliarci tutto il petrolio del mondo adesso dovremo ripartirlo con la Cina, con l'India, col Brasile e così di seguito. Cioè noi stiamo andando verso un periodo di forzata decrescita che potremmo programmare bene in modo da vivere addirittura meglio, evitando gli sprechi e convogliando invece le nostre attività su quello che ci rende felici. E invece stiamo organizzando le cose in modo che la decrescita sia subita e non programmata. E mi pare che questa apertura dei negozi vada nella corsia di un consumismo accelerato, laddove invece dovremmo educarci ad accelerarlo. Però io ripeto, lei parla spesso della possibilità di vivere un tempo senza orologio, un tempo, per l'amor del cielo, tutti sogniamo di vivere avendo il tempo per noi, per poter fare una vita anche più rilassata. Però io dico, perché quando esco dall'ufficio alle 19:30 invece l'orologio devo guardare benissimo, perché sennò arrivo al negozio e il negozio è chiuso? E invece, no, potrebbe... ma i negozi aperti ci sono tantissimi ormai. Però allora vedi, ci vogliono i negozi aperti. È una liberalizzazione fasulla, come quella faccenda dell'articolo 18, interessa proprio pochissimi e pochissimo. In effetti oggi qualunque cosa noi vogliamo, a qualunque ora la troviamo. Ecco, quindi però questo è solo un incentivo in più. È un incentivo, solo un incentivo in più al consumo. È una cosa di facciata, come molte di quelle che stiamo subendo negli ultimi tempi. Allora io mi voglio sottrarre, diciamo, alla condizione di utile idiota che crede a tutto quello che gli si dice, ecco. Va bene, lei però parla spesso ultimamente della possibilità, cambiamo argomento visto che lei si occupa, sì, anche insomma, per esempio di lavorare come, visto che abbiamo appena affrontato la questione delle pensioni, hanno fatto una riforma e andremo in pensione un pochino più tardi, dall'altra parte sappiamo che c'è la disoccupazione, allora molti si dicono com'è è possibile conciliare queste due cose, lei forse qualche risposta ce l'ha. E infatti non è possibile, è un'altra presa in giro. Se noi allunghiamo il tempo di lavoro degli anziani, naturalmente mancherà il lavoro per i giovani. Un economista della Bocconi in un dibattito su questo mi ha detto sì, ma anche negli anni 30 si temeva che non ci fosse lavoro a sufficienza e poi c'è stato. Ma negli anni 30 noi eravamo tra i pochi paesi che vivevano in una grande pacchia e non c'era la Cina, l'India, la Russia, il Brasile e tutti gli altri paesi in via di sviluppo. Oggi ognuno le cose se le fa a casa sua, la Cina le automobili se le farà a casa sua e così tutto il resto, come oggi del resto fa gli iPad, gli iPhone e così di seguito. Questo significa che il lavoro in effetti è sempre meno, perché noi abbiamo imparato, ed è una cosa civile, bellissima per me napoletano, abbiamo imparato a produrre sempre più cose e sempre più servizi con meno lavoro. Questo significa che se il lavoro non lo ripartiamo avremo gli anziani che fanno 12 ore di lavoro al giorno come pazzi, stressati, e i figli completamente disoccupati. Questo c'è già. Noi abbiamo in Italia 2 milioni di giovani, sì, che hanno cercato lavoro, lo cercano continuamente. Quindi secondo lei il lavoro che cercano i giovani, che non trovano, lo fanno gli anziani? Ma non c'è dubbio. Intanto tenga conto di una cosa: noi abbiamo circa 2 milioni di manager, dirigenti, eccetera, che la sera, a differenza di quello che avviene in Germania o che avviene negli Stati Uniti, la sera restano 2-3 ore in più in ufficio, non retribuito. Questo overtime che noi facciamo non per amore del lavoro, ma per odio della famiglia, perché si tratta quasi tutti di maschi che praticamente restano in ufficio, non si sa perché. Questi 2 milioni di persone con 2 ore al giorno di fatto tolgono lavoro a 530.000 giovani. Sono tutte follie, che paradossi, diciamo. Ma le aziende sarebbero, dove troverebbero le risorse per pagare un altro dipendente, un altro lavoratore? Anziché... Dove le trovano in, sì, Germania le risorse? Dove le trovano in America? La realtà è che quando 2 milioni di persone, invece di restare in ufficio, vanno fuori, migliorano la società, riproducono consumi di migliore qualità, modificano i bisogni. Le società che stanno meglio di noi sono quelle in cui i manager escono alle 5 del pomeriggio e travasano tutto il loro sapere organizzativo nella società. Ma lei, De Masi, a che ora fa spesa? Lei che elogia il tempo e la possibilità di prendersi il tempo. Ma io veramente non faccio testo, perché ho una destrutturazione totale del tempo. Lavoro spesso di notte, di giorno dormo o così di seguito. Ho la fortuna di poter fare un lavoro che, essendo intellettuale, mi consente, tranne ovviamente le ore di lezione. Quindi di fatto mi dà ragione, cioè lei fa una vita strana, tra virgolette, e naturalmente col sorriso, e quindi andrà a fare spesa negli orari più balordi. Ma non sfaccendato, però. No. Però andrà a fare spesa negli orari, quindi mi sta dando ragione alla fine. Cioè lei è una di quelle persone che, avendo un ciclo di vita, come molti ormai di noi, non più regolare, non si esce alle 9 e si rientra alle 5, alle 6, alle 7, ma quello che fa lei o quello che faccio io, eccetera eccetera, quindi le esigenze cambiano e quindi anche i negozi si devono adattare, insomma. Ma perché alla fine non abbiamo il frigorifero che fa da riserva? Certo. O non abbiamo la pizzeria sotto casa che è aperta fino alle 2 di notte? Questa è una bella risposta, proprio. Vabbè, però insomma alla fine non siamo molto in disaccordo. No, assolutamente sono convinto che lei è dalla mia parte su due cose: una, che bisogna lavorare in modo più intelligente e possibilmente di meno per travasare nella società quello che noi sappiamo, sì, e poi per pigliare tutte le cose belle che ci sono. E la seconda cosa è che, sì, dobbiamo imparare a vivere soddisfacendo molto più i bisogni di carattere, diciamo, qualitativo, introspezione, convivialità, amore, amicizia. È per questo che lei critica un po' il governo degli economisti, insomma. Ma non c'è dubbio. Il mondo non è fatto di solo economia. In questo momento l'economia si è mangiata la politica e la finanza si sta mangiando l'economia. Per cui porteremo tutto a livello di tempi immediati della finanza. Però lo spread, De Masi, per fare qualcosa contro lo spread ci volevano gli economisti, o no? Ah, lei pensa? Non lo so. Perché in questo momento, per esempio, c'era una signora esperta in pensioni che sta decidendo il destino del lavoro. Cioè proprio quella cosa che viene prima della pensione e che non c'entra affatto con la pensione. E il lavoro è un fatto globale, c'è la fisiologia del lavoro, la sociologia del lavoro, la psicologia del lavoro, il diritto del lavoro, perfino l'arte connessa al lavoro e così di seguito. Invece se ne stanno interessando solo gli economisti e i giuristi, per cui faranno un papoccio inaudito e vedrà che fra un anno faremo una trasmissione per sintetizzare i guai che sono stati combinati. Grazie, buona serata, Domenico De Masi. Prego, la Borsa, grazie tra poco. A voi. Di nuovo in diretta 824 0024 con i vostri interventi fino alle 20.30 e tra poco riprenderemo a sentire le vostre telefonate. Qualche commento su Facebook alle cose che abbiamo sentito sin qua. Dino dice: ragazzi, sono il più ricco del mondo perché dedico alla mia famiglia il mio tempo libero e non ci penso proprio a stare aperto 24 ore. Io sono il più ricco di tutti perché lavoro il necessario. Poi c'è Ennio che dice: vorrei chiedere all'onorevole Mazzocchi, il questore della Camera che difendeva lo stipendio dei parlamentari, quante ore lavora i deputati italiani nell'arco di una settimana rispetto a quelli europei. Per quanto mi riguarda, come la pensano gli italiani sui nostri politici, posso dire solo che non sono solo ladri, ma aggiungerei anche la parola mafiosi. E poi ancora Luca che dice: quindi se un amministratore delegato fa straordinari non retribuiti, ruba lavoro a un giovane precario? Ed è quello più o meno che sosteneva De Masi. A De Masi è dedicato anche il commento di Paolo che dice: se questo, cioè De Masi, lavora anche di notte, pensasse a dormire e facesse lavorare un giovane. E così anche De Masi si è beccato il suo commentino. Titoli del TG3. Braccio di ferro sul lavoro tra il governo e la CGIL, la Camusso dice no ad incontri separati, Monti orientato a mantenere lo schema. Napolitano, bisogna ripensare gli ammortizzatori sociali e affrontare i nodi dell'accordo del 28 giugno tra Confindustria e tutti i sindacati. Confronto aperto sul lavoro anche nei partiti, nessuna intesa senza consultarci, avverte il PDL, Bersani, nessuno rompa la coesione. Falò di giorno e di notte davanti alle fabbriche, centinaia i presidi di lavoratori che rischiano il posto, da Fincantieri a Irisbus alle operaie della OMSA. I parlamentari italiani guadagnano ben più dei colleghi europei, lo dice la commissione incaricata di calcolare la media UE, ma sui dati è già polemica. In 100.000 a Budapest per manifestare contro la nuova Costituzione, viola la democrazia, dice l'opposizione, e l'Europa blocca i fondi. La Procura di Roma chiude l'inchiesta sulla P3, chiede il giudizio per Dell'Utri, Verdini e altre 17 persone, volevano condizionare il funzionamento di organi costituzionali. Federico su Facebook scrive: mi fate qualche esempio di acquisti fuori orario che fareste e che ora non potete fare? Ma per esempio qualcosa da mangiare sicuramente, si torna a casa, si vede che in frigo non c'è un piffero, allora si vuol mangiare qualcosa, oppure una birra, la birra la sera d'estate, devo per forza andare al bar, costa il doppio, o una bella bottiglia di vino, sempre la sera. Mi sembra di essere monotematico, ma per quanto mi riguarda la mia risposta è questa. Ascoltatori all'800240024, cominciamo da Andrea che ci chiama da Foggia. Buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per avermi fatto intervenire. Prego. Allora, io sono il presidente di un'associazione che si chiama Mondo Gino Lisa, che è un'associazione di semplici cittadini. Come si chiama, mi scusi? Mondo Gino Lisa. Mondo? Gino Lisa. È il nome dell'aeroporto di Foggia. Ah, sì, sì, perfetto. Ah, okay. Abbiamo un sito internet, sì, apposito, ecco. Siamo nati come semplici cittadini, ci siamo riuniti perché noi sosteniamo e crediamo fortemente nel nostro aeroporto come infrastruttura strategica. No, il comitato a favore dell'aeroporto ci siamo beccati. È soprattutto un'associazione, le spiego, che è un po' differente, diciamo, da un semplice comitato cittadino. Insomma, comitato, associazione, sì. Perché siamo nati come con la voglia fattiva di risolvere questo problema. Quale problema? Il problema del nostro aeroporto, che in questi 40 anni, negli ultimi 40 anni, non è mai potuto decollare ed è sempre stato... Ci sarà un motivo, mi scusi. Sì, il motivo è esattamente, io lo spiego subito. Sì. Il primo motivo è sostanzialmente l'infrastruttura in termini di pista. La pista dell'aeroporto di Foggia è troppo corta e questo significa che al giorno d'oggi le compagnie aeree che utilizzano nella maggior parte dei casi aerei da 156 o 189 posti, per esempio i Boeing 737 oppure gli Airbus 319 o 320, quelli che utilizziamo tutti quanti negli aeroporti normali, che usano tutte le compagnie, non possono atterrare nell'aeroporto di Foggia, possono atterrare a Bari, a poca distanza da lì, a Bari, Napoli o Pescara. Ma Bari è vicinissima a Foggia, un'ora circa. No, assolutamente no, è un'ora e mezza. Ma non è che ogni città deve avere un aeroporto, e questo è il punto di partenza, secondo me, che viene contestato a questi progetti. L'ha detto anche il ministro dello sviluppo Passera, che ha detto: rivedremo il piano degli investimenti aeroportuali perché in Italia ci sono già troppi aeroporti. Ecco appunto, però le faccio osservare che esistono degli studi di organismi importanti come Eurispes che hanno sempre dimostrato il bacino di utenza dell'aeroporto di Foggia, che non è soltanto concentrato nella città di Foggia, ma soprattutto nella provincia, nel Gargano e anche nelle province limitrofe come quelle del Molise oppure della vicina Campania, fino ad estendersi in Basilicata, dove nell'arco di 300 km, un raggio di 300 km, non esistono aeroporti vicini. 300 km come diametro, non come raggio, voglio essere preciso, perché per esempio l'aeroporto di Napoli dista circa 180 km, quello però di Pescara. Mi scusi, con questo criterio dovremmo fare un altro centinaio di aeroporti in tutta Italia, perché... Ecco, le rispondo subito anche a questa domanda. Non è che ogni zona abitata debba avere un aeroporto a meno di 100 km di distanza, chi l'ha detto questo? Esattamente, allora le spiego anche tutto questo. In Puglia ci sono due aeroporti che sono funzionati, quello di Bari e quello di Brindisi. Se proprio dovessimo fare un aeroporto ogni 200 km equidistante nel sud Italia, sarebbe proprio l'aeroporto di Bari a non dover esistere, perché se uno facesse far funzionare l'aeroporto di Pescara, di Napoli, di Foggia, di Brindisi, di Lamezia Terme e anche a Reggio Calabria. Ma lei non è spaventato dai 15 milioni di euro stanziati per il suo aeroporto e l'aeroporto che non funziona? No, sono spaventato dalla cifra molto più alta che è stata spesa a Bari e Brindisi negli ultimi 5 anni. Però quell'aeroporto funziona, lì da voi ci sono 20 passeggeri al giorno. Stiamo parlando di 500 milioni di euro che sono stati spesi negli ultimi 5 anni. Però l'aeroporto almeno funziona. Ma sono stati spesi 500 milioni di euro e soprattutto oggi funziona perché è stato fatto in modo di far arrivare Ryanair e vengono spesi 12 milioni di euro l'anno per poterli fare l'offerta del favolare questa compagnia. Insomma, a me personalmente non mi convincerà mai, però io conto fino a un certo punto. Sentiamo se cosa ne pensano gli ascoltatori. Ha finito la questione? No, volevo far osservare, assolutamente non è vero che non c'è un mercato. Le faccio osservare, pochi sanno che la stessa Ryanair prima di approdare in Puglia aveva chiesto proprio ad Aeroporti di Puglia, che è la società che gestisce gli scali pugliesi, di arrivare a Foggia proprio per l'interesse del Gargano e gli fu chiusa la porta in faccia. Poi non è vero che non esiste un mercato, perché le faccio osservare anche che negli ultimi 3 anni ha volato una compagnia aerea dove c'è stato un riempimento dell'80% dei voli, erano possibili trasportare 100.000 passeggeri all'anno, ne hanno volati 80.000 con prezzi che sono 10 volte superiori a quelli di Bari. Poi le faccio osservare che assolutamente l'allungamento della pista non è inutile, perché come le ho detto Ryanair è stata la compagnia che esiste un fatto. Va bene, della pista abbiamo già parlato. Grazie Andrea, grazie. Andiamo a Giorgio che ci chiama da Padova. Buonasera, avete problemi con aeroporti anche lì? No. No, niente aeroporti. Perfetto. Volevo parlare della retribuzione dei nostri parlamentari, se è possibile. Mi sente? Forte e chiaro, forte e chiaro. La sentiamo tutti. Sì. Allora volevo rispondere un attimo al senatore Mazzocchi, il quale non so, deve aver preso il popolo italiano proprio per dei fessacchiotti da come ha risposto a lei. Se non sappiamo magari noi come risolvere il problema, partiamo da un discorso, cioè che il datore di lavoro, che dovrebbero essere i cittadini italiani, dovrebbero essere loro a decidere che cosa dare ai loro dipendenti, perché di dipendenti si tratta naturalmente, che siano anche pur senatori o parlamentari, comunque sono nostri dipendenti. Di fronte a uno stipendio minimo, diciamo, un qualsiasi datore di lavoro, cioè stipendio minimo è fissato dal regolamento, può dare anche di più per particolari meriti, e noi dovremmo fare la stessa cosa secondo me, cioè partire dal discorso perché fare la media dei paesi europei. Noi siamo per sapoco con lo stesso spread della Spagna, partiamo dalla Spagna, 4.630 euro è la loro retribuzione. Poi se lo spread dovesse diminuire, vuol dire che sono stati bravi, che sono stati attenti, che si sono messi d'accordo su fare determinate cose positive, di conseguenza potremmo pensare ad altre nazioni. Se lo stipendio andasse con lo spread, come dice lei, adesso guadagnerebbero pochino i parlamentari italiani. E se lo meritano anche, mi sembra, da quello che capisco in questi ultimi anni. Grazie Giorgio, grazie. Non ne avremmo neanche bisogno, perché a questo punto qua, sì, in cui siamo, abbiamo un migliaio fra senatori e parlamentari in genere, no? Che prendono lo stipendio per far niente, perché sono messi da una parte, non fanno niente. Grazie Giorgio, grazie, buona serata. Andiamo a Niclo che chiama da Pescara. Salve, buonasera. Prego. Volevo intervenire per quanto riguarda, volevo rispondere più che altro a quello che diceva un attimo fa l'onorevole che difendeva il suo stipendio. Mazzocchi. Mazzocchi, sì. Certo. per carità, concediamo qualsiasi cosa loro decidano di prendere, poniamo anche che guadagnino tanto quanto i loro colleghi europei, ma la differenza tra loro e i lavoratori italiani, la maggior parte dei lavoratori italiani è questa, cioè che quello che loro prendono di netto è netto realmente, quello che va in tasca a loro, quello che il lavoratore italiano prende in busta paga, da quella somma deve decurtare le spese di benzina, le spese della colazione, le spese del pranzo e tutto quanto, il pranzo ovviamente pagato il triplo di quello che si pagava alla Camera fino a qualche tempo fa, e quindi alla fine il netto è notevolmente inferiore a quello che poi in busta paga realmente viene inserito, senza contare la tassazione che è uguale, perché ovviamente anch'io vorrei pagare il 50% o il 60% della mia retribuzione, vuol dire che guadagno tantissimi soldi, per carità, non è che io voglio pagare di meno perché su una somma maggiore mi fanno una decurtazione minore, mi facciano guadagnare 200.000 euro, che mi poi prendesse tutto quello che vogliono. E intanto come cominciamo con 200.000 e poi vediamo. Grazie. Appunto, ok. Sì. Ringrazio. Grazie a lei. Vale. Andiamo a Domenico che ci chiama da Piacenza. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Senta, io ho la ricetta giusta per risolvere la crisi. Cioè, mi spiego. Prendiamo appunti. Sì, prendete appunti. Cioè io vorrei pagare le tasse sulla differenza tra ciò che io guadagno e ciò che io spendo. Cioè facciamo un esempio, se mi dessero lo stipendio all'ordo della tassazione e pagassi le tasse per la differenza di quello che io spendo, io sarei contentissimo. Certo, uno spende tutto e non paga una lira di tasse. Esatto, però in questo modo io contribuirei allo sviluppo. E sarei portato a richiedere le ricevute. Quello delle ricevute e della possibilità di scaricare qualunque spesa. No, non sto parlando di scaricare che, le sì. ricevute. Sì? Io sto parlando di mettere le ricevute da parte per dire che questo è il mio, quello che ho speso, e la differenza tra quello che ho speso e quello che ho guadagnato io la do tutta allo Stato. Semplicissimo. Va bene, questo voleva dire, grazie. Commenti su Facebook alla questione dell'aeroporto. Vorrei un aeroporto, dice Maurizio, nel Prato vicino a casa mia. Anch'io, l'aeroporto Grande Salento di Brindisi, commenta Giorgio, nel 2011 ha fatto 2 milioni di passeggeri e Foggia 20 al giorno, questo è quello che so io. Poi c'era un altro che invece voleva l'eliporto sul tetto del palazzo perché non ce la fa a fare le scale, anche questa non è male. E boh, e altri, va bene, ancora su Facebook e al 349-238-6666 e anche al numero verde. Abbiamo Isidoro che ci chiama da Trento, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Anch'io le faccio i complimenti per come ha reagito e ha sostenuto le tesi nei confronti dell'onorevole Mazzocchi, ma però sono perplesso e penso di esprimere il mio parere, ma come parere di molti altri italiani, io personalmente mi vergogno di essere rappresentato da un soggetto che lamenta perdite di reddito dal fatto che lui svolga un'attività. Attenzione perché è stato eletto Mazzocchi e quindi non ci tiriamo tutti indietro perché sono eletti, Colucci, Mazzocchi, quelli che oggi hanno fatto queste dichiarazioni e chissà quanti altri. Sì. Lei ha ragione, però un errore ci venga concesso, visto che poi l'Italia e la politica soprattutto ci è pregna di esempi e soprattutto di errori e di malcostume. Per cui comprendo che non ci si debba assolutamente nascondere dal fatto che queste persone siano state elette, ma però la realtà la dobbiamo vedere. Noi oggi non paghiamo solamente il 30, il 40 e chi qualcosa di più, ma paghiamo anche un'IVA su tutti i nostri consumi che oggi è il 21, quindi se sommiamo questa cifra a quello che paghiamo sul reddito, oltre poi le imposte locali, bici eccetera, vediamo che lo Stato assorbe se non il 60, il 70, addirittura l'80% degli stipendi, quindi ci sarebbero modi e termini perché ognuno di noi possa lamentare dei sacrifici che i politici sembra non vogliono assolutamente fare in nessun modo, quindi questa è la vergogna, non tanto per il soggetto ma quanto per le posizioni che loro vogliono assumere e stanno assumendo. Va bene, ha finito, voleva dire qualcos'altro? Volevo aggiungere una cosa, peraltro qualcuno ha già sottolineato, perché non fare riferimento agli stipendi dei parlamentari che si trovano come l'Italia, la Spagna per esempio, il Portogallo, anche loro hanno uno spread molto elevato, i politici hanno fatto poco, hanno fatto male, prendono un terzo, un quarto di quello che prendono i politici. Vabbè, però non è che i politici hanno fatto male e prendono meno, prendevano quello che prendevano a prescindere se hanno fatto bene o se hanno fatto male, perché non è che questo è quello che succede ovunque, ma anche nelle aziende non è che uno fa bene o uno fa male, c'è un automatismo diretto, ci sono magari dei premi di produttività nelle aziende, non parliamo di questo per quanto riguarda i politici, ma gli stipendi sono quelli a prescindere dallo spread. Prima un ascoltatore invitava a legare lo stipendio del politico allo spread, però è solo un'idea fantasiosa peraltro. Andiamo a Francesco che ci chiama da Foggia. Vuoi vedere che è per l'aeroporto? Buonasera, sì, esattamente, per la riposta era giusto, perché chiaramente quando si dà una notizia è giusto anche precisare quali sono i problemi. Infatti io ho chiesto a voi di precisare, ascoltatori. Sì. In una città come Foggia, che non a caso quest'anno proprio il vostro giornale ha classificato agli ultimi posti in Italia. Il discorso e quindi l'aeroporto che c'entra, Foggia... scusi, l'aeroporto che serve? A tirare su dalla classifica Foggia? L'aeroporto di una città serve anche a far crescere, a far l'aeroporto serve a trasportare gente, persone, arrivare in altre località, chiedo scusa, anche perché sì. L'aeroporto di Foggia è condannato dalla regione Puglia, visto che il signor Vendola patteggia per l'aeroporto di Bari, dove ha speso 200 milioni di euro. Ma i soldi che dicevo io prima l'ha stanziati proprio la regione Puglia, Vendola, questi 15 milioni di euro. Perché lui c'ha la coscienza sporca, perché a Foggia ha preso più voti delle altre parti, non ha fatto mai niente per questa provincia. Se a Foggia non allungano la pista, forse... Ma guardi che è per questo che poi i politici finanziano gli aeroporti, perché ci sono elettori come lei che pensano che l'aeroporto serva per la propria città e fa Ma se lei non crescere. Mi fa finire, io non le spiego il concetto. La provincia di Foggia è una delle più grandi d'Italia e ha il Gargano, dove solo VS ha fatto 2 milioni di presenze quest'anno. Allora come può crescere un territorio senza un aeroporto adeguato? Come possiamo noi combattere contro il Salento, contro la Sardegna e contro altre località del mondo con un Gargano che è stato definito? Io ho già detto che di questo passo al mondo, come possiamo noi competere? Ci sono in Italia già 51 aeroporti, più molti più di quelli che ci sono facendo la media per abitante nel resto d'Europa. Non ci sono distinzioni. Il punto di partenza è questo: chiudiamo qualche altro aeroporto per fare quello di Foggia, oppure dobbiamo aumentare ancora il numero di aeroporti, quindi poi alla fine ci saranno pochi passeggeri in questi aeroporti. Esiste già da 20 anni, avevamo chiesto anche perché noi abbiamo la Mendola, che è uno dei più importanti d'Italia, e quando c'è stata la guerra nel Kosovo partivano tutti da qui. Si potrebbe anche cercare almeno 6 mesi per far sì che il turismo cresca e cresca anche tutta una vasta area dove sul turismo campa, per cercare di essere competitivi. Come facciamo a essere competitivi con una Spagna dove con 400 euro si va? Ma non è che Foggia deve competere con la Spagna, signor Francesco, non è che Foggia da sola deve competere con la Spagna, che c'entra? Vabbè, insomma, grazie. Comunque mi sembra che abbia espresso abbondantemente il punto di vista foggiano su questa questione dell'aeroporto. Alessandro da Rimini, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, io chiamavo intanto per confermare quello che lei diceva sul fatto che questa aggressione ai politici non è assolutamente una campagna stampa, a mio avviso, ma è la gente indignata che finalmente comincia a svegliarsi e a far sentire la propria voce. E in più di recente si sente tantissimo come difesa da parte dei politici per quello che sono i loro compensi, dire che se gli stipendi fossero abbassati solamente i baroni si avvicinerebbero alla politica. Questo mi sembra un assurdo, perché se un compenso si potesse commisurare in 3.500-4.000 euro netti al mese, sarebbe già per tantissimi italiani uno stipendio. Un aumento, un miglioramento. Un aumento, certo. E un miglioramento, per cui tanti di noi, o perlomeno quelli portati a fare politico con qualcosa da dire in politica, sicuramente potrebbero avvicinarsi senza il terrore di non potercela fare economicamente. Ma ancora di più, a queste condizioni, finalmente forse proprio i baroni non si avvicinerebbero più alla politica, perché sicuramente sarebbe uno stipendio non interessante per un barone, quindi dovrebbero terminare questa difesa assurda che appunto li porta a dire che la politica deve avere un costo elevato, altrimenti la povera gente non può fare politica. È sbagliato. Grazie. Ascoltatore ancora su Facebook sulla questione dell'aeroporto. Luca dice, Ciro dice, 51 aeroporti, al sud sono solo 6. Proprio quello di Foggia deve essere eliminato. Io non credo che siano solo 6 al sud, bisogna vedere cosa si intende per sud, credo che siano molti di più. E poi se si è sbagliato al nord facendo troppi aeroporti, perché si deve sbagliare anche al sud rifacendo lo stesso errore? Dove andiamo? Antonello che ci chiama da Milano, buonasera. Sì, salve, buonasera. Io volevo commentare riguardo al discorso degli stipendi dei deputati. Volevo appunto commentare riguardo all'onorevole che ha parlato prima. Per meritarsi diciamo la fiducia poi dei cittadini, forse sarebbe opportuno fare delle proposte concrete, cioè lui cosa ritiene ragionevole prendere come remunerazione da deputato, e un cittadino medio cosa dovrebbe accettare, cosa può accettare, quindi io cosa mi aspetterei adesso prossimamente dalla politica, cosa che avrebbero dovuto fare magari qualche anno fa, se non qualche decennio fa. Ma direi sul rimborso spese, un rimborso spese a piedi lista, quindi un cittadino, un lavoratore medio italiano lavora, viaggia, se viaggia per lavoro viene rimborsato per i viaggi che fa, non un forfè mensile indipendentemente dai viaggi che compie. Giusto. La stessa cosa per quanto riguarda vitto e alloggio. Lo stesso per quanto riguarda il discorso delle remunerazioni ai collaboratori. Se io sono un dirigente in azienda e ho bisogno di un collaboratore, lo chiedo alla mia azienda, se lo assumo l'azienda me lo paga, se l'azienda non lo assume non c'è un esborso. Invece oggi i politici ricevono una somma, se loro non prendono il collaboratore la somma la prendono lo stesso. Si intascano comunque la somma, sì. Quindi questo è un'altra assurdità. Sì, sono tutte cose quindi, che si configurano però agli occhi dei comuni mortali come privilegi, e questo. Ma esatto, cioè io mi sarei aspettato da un onorevole che vuole meritarsi la fiducia e vuole rappresentare come dire il sentimento dei cittadini, mi sarei aspettato un ragionamento di comune buonsenso. Un po' una presa d'atto. Grazie anche a lei. Andiamo ad Alberto che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Buonasera. Niente, io volevo fare un po' un'operazione verità nei confronti dell'onorevole Mazzocchi e a tutte le cortine fumogene che ha lanciato col suo intervento. Parlo con cognizione di causa come parte in causa perché io sono stato un appartenente alla casta, nel senso che sono un ex consigliere regionale del Veneto e quindi conosco le dinamiche e retributive e quant'altro che riguardano la politica e continuo a conoscerle perché in quanto beneficiario di un vitalizio ne conosco anche tutti i particolari. Quando l'onorevole Mazzocchi sì. Dice 16.000 euro lordi, bisogna stare attenti perché non è questo il reale imponibile sul quale, come dice l'onorevole Mazzocchi, i parlamentari pagano il 50% di tasse, perché in questi 16.000 euro lordi che prendono bisogna poi scorporare tutta una serie di voci che invece non sono soggette ad IRPEF. I benefit, cioè tutto quello benefit, che la diaria ad esempio, sì, no? Sì. Ad esempio non si capisce perché l'onorevole Mazzocchi percepisca più di 3.000 euro, tra le altre cose, al mese come indennità di residenza in quel di Roma, visto che lui è residente a Roma, tra l'altro. Potrebbe essere comprensibile o accettabile, anche se tra virgolette per parlamentari fuori sede, ma non certo per i residenti. E, detto questo, anche sull'indennità non si paga l'intero ammontare anche l'indennità non corrisponde all'intero ammontare di imponibile, perché sulle voci accessorie e in parte anche sull'indennità non si pagano tasse, e questo vale non solo al momento in cui uno percepisce l'indennità, ma vale anche per la pensione. Io ad esempio, che ricevo questo vitalizio, ma è una pensione, ho un 20% dello stesso che non è assoggettata a IRPEF. Quindi al di là di quello che... Cioè lei paga le tasse solo sull'80%? Sull'80%, perché il 20% non si sa perché, io l'ho trovato così e così è, non pago le tasse. E allora avevamo Alberto da Vicenza, ex consigliere regionale, che ci stava raccontando per esempio questo particolare, che lui sul vitalizio da consigliere regionale paga per legge le tasse solo sull'80%, cioè è quasi come se quel 20% fosse in nero. Esatto, no, esatto. Io ho una quota, io ho qui davanti a me il cedolino del mio vitalizio, dove si dice assegno vitalizio esente IRPEF, quota esente IRPEF. E poi c'è anche l'altra voce. Porta a casa dal momento in cui è finita la legislatura 1.500 euro. No, da quando è la legislatura, quando compie 60 anni. Ah, perché è scattato da quando lei ha compiuto 60 anni. Esatto. Perché in Veneto è così, perché altrove scattava anche prima. Nel Veneto stesso prima scattava 50 anni. Esatto. Dopo l'hanno modificata, perché ovviamente per quelli che sarebbero stati eletti successivamente, sì, diversamente. E adesso hanno fatto l'ultima ancora, dove hanno migliorato ancora la cosa, nel senso che hanno previsto che sia anche lì sul contributivo, che si vada in pensione. Senta, le voglio chiedere una cosa a questo punto. Dato che Mazzocchi diceva che uno dei problemi è per il parlamentare trovare un lavoro dopo la legislatura, ecco perché così si spiega il vitalizio. Lei ha avuto problemi a... Allora, io le spiego. Io sono un medico ed ero, adesso sono in pensione, ed ero dipendente dell'URSS. Allora, quello che non vuole dire l'onorevole Mazzocchi è che se uno è dipendente e va e viene eletto, ha diritto al pagamento da parte dell'azienda da cui dei contributi. Dei contributi figurativi. Certo. Per cui di fatto gli matura lo stesso la pensione come se lavorasse, e contestualmente ne matura un'altra come parlamentare. Questo se fosse stato un dipendente. Se invece non è un dipendente, visto che è un professionista, lui è sicuramente, era, poi lui ha detto che si è cancellato, però era iscritto alla sua casa dell'Ordine degli Avvocati, per cui pagando i contributi, io ad esempio l'ho fatto con l'Ordine dei Medici, continuavo a crearmi anche la seconda pensione, cioè oltre a quella di dipendente, anche quella di medico con la cassa professionale, per cui non è assolutamente vero. Ma lei ha fatto la scelta di non pagare la casa, è una scelta sua, ma non è che sia... Le voglio fare questa domanda, poi lei risponda come vuole naturalmente. Lei per questi anni che ha svolto come consigliere regionale ritiene giusto aver ricevuto questo vitalizio, cioè questa pensione? Assolutamente no, ed è per questo che sono indignato, ed è per questo che la chiamo. Certo, uno potrebbe dire, però intanto se lo mette in tasca. Sì, allora però... io le dico, non le dico a che formazione politica appartenevo, perché non è il caso, ma comunque no, può dirlo, non c'è nessun problema. Ero della Lega Nord e poi mi sono cavato dalla Lega Nord, ecco, per dirla fino in fondo. Si è cavato? Cioè è uscito dalla Lega? Sono uscito dalla Lega Nord dopo 3 anni. E dove è andato? Ancora, ed ero ancora in consiglio regionale. Gruppo misto? No, avevamo creato un altro gruppo politico che aveva messo un po' in crisi la Lega all'epoca. Perché era uscito dalla Lega? Perché non mi riconoscevo più nel progetto politico che la Lega nel frattempo aveva modificato, stava facendo. Io ero entrato in Lega quando si parlava di federalismo, e dopo un certo momento, quando le altre forze politiche hanno cominciato a parlare anche loro di federalismo, perché faceva tendenza, Bossi ha deciso di fare salto di qualità e parlare di secessione. Io sulla secessione non mi riconoscevo. Cioè, se lei dice che Bossi ha fatto questa cosa per distinguersi, perché stava diventando omologato con gli altri partiti. Perché sicuramente una delle conseguenze dell'esistenza della Lega è che il federalismo, che era nato come battaglia della Lega, adesso è diventato un tema sul quale sono tutti favorevoli. Però questa sarebbe, no, però, per la Lega non era più un motivo di... Non era più un vessillo, no? Però era un risultato politico. Comunque al di là di queste motivazioni, le dico di più allora. un aneddoto della mia vita. Io mi ricordo che quando sono stato eletto, dopo due mesi che eravamo stati eletti, il Consiglio non si era ancora convocato, per cui di fatto noi non lavoravamo, però da due mesi. Sì, perché c'erano tutte le procedure, poi c'era una certa sentenza, e comunque percepivamo lo stesso la nostra profumata indennità. Allora, a quel punto io feci una proposta in gruppo e dissi: facciamo un atto di denuncia pubblica, rinunciamo tutti all'indennità, in modo da dire ai cittadini che non è giusto pagare gente che è lì, che ancora non sta facendo nulla. Allora mi fu spiegato, e dopo io dal capogruppo, e dopo verificai che era vero, che la politica si è tutelata anche in questo, nel senso che c'è una legge che prevede che un parlamentare non possa, o un consigliere regionale, non possa rinunciare alla sua indennità. È costretto a incassarla. Dopo ne può fare quello che vuole, la può dare ai poveri, ai ricchi, eccetera, però non può rinunciarvi. Guardi fino a che punto la politica si è blindata nei confronti di quelle schegge impazzite che ogni tanto esistono anche all'interno del mondo della politica, no? Perché i puri ci sono ancora, per fortuna, ogni tanto. Sì, Alberto, vuole aggiungere qualcos'altro rispetto anche a quello che diceva Mazzocchi, qualche altro argomento vuole controargomentare? No, assolutamente, l'ho visto così entusiasta e così convinto che quanto verrà deciso dal presidente dell'Istat verrà recepito dai politici, l'ho visto così ben disposto, a fronte invece di tutte le obiezioni che invece faceva. E considerato anche il fatto che da sei mesi, ci ha messo sei mesi fino adesso il presidente dell'Istat per fare per portare i primi conti, ancora non ha finito, gli servono altri tre, che io non ci credo proprio. Sa cosa faranno probabilmente? Si limiteranno a scorporare l'importo necessario per pagarsi i loro portaborse, verrà gestito dalla Camera piuttosto che dal gruppo di appartenenza e non figurerà più nello stipendio, nell'indennità dei parlamentari. Credo che non andranno più in là di questo. Già questo sarebbe però un risultato, perché almeno andrebbero direttamente ai cosiddetti portaborse, anziché andare nelle tasche del parlamentare di turno, che poi può decidere o meno di spenderli per questo. Grazie Alberto da Vicenza per questa interessante testimonianza. Titoli del TG1. Sviluppo e crescita, vertice governo Banca Italia sul lavoro, braccio di ferro tra esecutivo e CGIL, Bonanni al TG1, conta la coesione sociale. Napolitano, ripensare ammortizzatori sociali sul nodo della rappresentanza sindacale, ripartire dall'accordo dello scorso 28 giugno. Parlamentari italiani pagati meglio ma costano di meno perché minori le spese accessorie, risultati della commissione Giovannini. Al via la corsa alla Casa Bianca, in Iowa le primarie repubblicane per decidere chi sfiderà Obama, tra i favoriti un italo-americano. Cortina, vacanze di Natale con 80 ispettori del fisco, controllati conti e fatture di alberghi e ristoranti, insorgono VIP e operatori turistici. Il ministro Profumo al TG1, obbligo scolastico fino a 17 anni nelle professionali, ringiovanire la classe docente, non toccheremo la riforma Gelmini. Apre ufficialmente il calciomercato di gennaio, i grandi club come Milan e Inter, protagonisti degli affari di mezza stagione, Pato, Tevez, De Rossi, i campioni su cui ruotano le trattative. L'ira di Cortina per il blitz degli agenti del fisco di fine anno, controlli fiscali con 80 agenti, operazione a sorpresa, l'avete sentito anche dai titoli del TG1, operazione a sorpresa dell'Agenzia delle Entrate a Cortina, dove tra l'altro è in vacanza il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera. Le fiamme gialle locali perplesse, scrive il Corriere, anche se noi abbiamo sentito il capitano della Guardia di Finanza Leonardo Landi, che mi pare confermasse l'opportunità di questo blitz con condotto non dalla Guardia di Finanza ma dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo in linea il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Andrea Franceschi. Buonasera. Buonasera. Allora, io le faccio questa domanda, sindaco, molto semplice: perché ve la prendete con questo blitz? Io capisco che abbia un po' scombussolato le vacanze del periodo migliore per voi dal punto di vista turistico, però in fondo se uno non ha niente da nascondere non ha niente da temere. Ma guardi, io voglio sgombrare il campo da qualsiasi equivoco proprio all'inizio di questa intervista per dire che nessuno contesta il fatto che vengano fatti i controlli e che sono sacrosanti, né tantomeno che si faccia la lotta all'evasione che è altrettanto sacrosanta. Quello che si è un po' così messo in discussione è la modalità con cui è stata portata avanti questa azione, perché arrivare nei bar la mattina presto, occupare un tavolo per tutta la giornata, avere queste persone che comunque ti chiedono i documenti, i bilanci degli anni precedenti, così costringono i titolari delle attività a correre tra un commercialista, l'avvocato e a casa a cercare i documenti eccetera, quando invece dovrebbero dedicarsi alla cura della clientela in quelli che sono i giorni più intensi dell'anno, l'abbiamo trovato poco rispettoso delle persone che lavorano, ecco, perché i bilanci si possono chiedere anche il 10 di gennaio, sono dei documenti e uno se li può tranquillamente andare a Però perché venivano proprio in questi giorni? Perché speravano di prendere in castagna? Perché si parla molto dei presunti ricchi, quanto costa per esempio una vacanza di 3 giorni, che ne so, a Cortina? Ma guardi, Cortina ha la fama di essere una località ricca, costosa in verità. Diciamo che è una, lo dico proprio perché è una delle cose che cerchiamo di trasmettere, è a portata di tutti. Chiaramente abbiamo i 5 stelle lusso che hanno dei prezzi fuori dalla portata di tutti, ma delle persone normali, ma abbiamo poi anche i campeggi, le pensioni familiari, insomma veramente è per tutte le tasche. Naturalmente dipende da che tipo di stile di vita uno vuole fare durante le proprie vacanze, ma questo vale per tutto, insomma, se io vado a Milano posso spendere X o spendere anche 10 volte tanto. Cioè, a partire da quanto si può spendere per stare 3 giorni a Cortina, che ne so, una famiglia di 4 persone? Ma guardi, io so che dipende molto dal periodo, chiaramente. Se adesso in questo periodo, in questi 10 giorni qui, mi sembra che le pensioni, diciamo, a gestione familiari, magari che sono leggermente in periferia, siano su circa, diciamo, 250 euro totali al giorno, moltiplichiamo poi per 4 giorni, quindi con 1000 euro si possa assumere. Però in periferia, invece lì dove hanno fatto il blitz gli agenti delle metropoli, quindi periferia significa 2 chilometri dal centro. E invece nelle vie del centro di Cortina la stessa cosa? Quanto può costare? Ma diciamo in centro costa un po' di più, perché ovviamente si premia anche la posizione, il fatto di non dover poi muovere la macchina, quindi diciamo che si può salire di un 30%, ecco. Quindi di arrivare anche ai 1200-1300, ma insomma, poi chiaro, ripeto, se uno vuole il 5 stelle lusso con la suite da 200 metri quadrati, insomma. Ecco, per esempio una roba del genere quanto può costare? Mettiamo in questo caso una coppia, 2 persone in un 5 stelle lusso al centro di Cortina. Guardi, se questo io proprio mi sa che non saperglielo dire, ma perché lei non li frequenta, immagino, perché uno non va nella banca, però è il sindaco, approssimativamente. Beh, insomma, i giorni di Natale penso che una suite possa costare anche qualche migliaia di euro al giorno, insomma, naturalmente non si ragiona più a posto letto, si ragiona proprio a suite, ma penso che un 1500 euro al giorno. Possono anche costare una suite, insomma. So che non è per tutti, non è che siamo qua a dire che no, ma infatti non è nemmeno per me, devo dire la verità, ma però fa parte del mercato, ecco, ci sono ce n'è per tutti, voglio dire. Sì, no, certamente, però per capire il motivo di questi blitz è anche perché diciamo la parte alta della vostra offerta turistica è talmente alta che sicuramente si va a pescare insomma in gente facoltosa, siccome si dice sempre che non bisogna colpire il piccolo evasore o il piccolo contribuente, pagano sempre i soliti noti, l'elettricista, l'idraulico. Certo, se parliamo di 1500 euro al giorno si va su un altro livello. Io credo che l'Agenzia delle Entrate sia interessata a questo, a vedere se c'è qualcuno che si permette questa vita e poi dichiara poco o niente. Sì, è possibile che ci sia qualche evasore, no? Voglio dire, tra i tanti. Abbiamo oltre 1 milione di presenze, che sarebbe impossibile che non ci sia neanche un evasore, ci mancherebbe. Questo penso sia anche nella legge dei grandi numeri. Poi devo dire che i grossi alberghi sono frequentati quasi esclusivamente da clientela straniera, a dir la verità, quindi che è un po' estranea questa logica dell'Agenzia delle Entrate, ma insomma sicuramente a Cortina ci sono degli evasori in questo periodo, come ci sono in tutte le parti d'Italia, vuol dire quando sì. 50.000 persone chi è che può mettere la mano sul fuoco che siano tutti dei cittadini modello, questo assolutamente. Ma voi, ecco, quello che le domando a questo punto, cioè lei si lamenta per il lavoro che è stato fatto, che quindi ha intralciato un po' con l'attività economica degli operatori, o temete anche un contraccolpo d'immagine per questi controlli, che Cortina venga identificata in questo modo negativo? Beh, entrambe le cose, diciamo, più di tutti sicuramente l'aver distratto e distolto le energie degli operatori locali in un momento veramente intenso in cui devono pensare a, insomma, a, alla propria attività. Chiaro che non ci piace neanche molto l'immagine che qualcuno vuol far passare, Cortina uguale evasore, insomma, perché però, voglio dire, sì, non sarebbe neanche corretto fare queste generalizzazioni che sono un po' semplicistiche. Sì. Sì, non portano poi da nessuna parte. Però secondo me, perché io parlo da così come osservatore, io se sento il sindaco di Cortina d'Ampezzo che fa una levata di scudi, ma questo devo dire in questa intervista non è il suo caso, magari altrove qualche commento più forte c'è stato, allora mi rafforzo nell'idea che possa essere Cortina un luogo dove vanno gli evasori. Se invece il sindaco dice no, ma venite pure, fate i controlli, noi non abbiamo nulla da nascondere, al massimo agevolateci nelle nostre attività, allora io credo che lei contribuisce e contribuirebbe a non creare l'immagine negativa di Cortina. Non so se è d'accordo su questo ragionamento. Ma sì, sono d'accordo, anche se io sono dell'idea che il fatto che siano arrivati il 30 di dicembre c'è stata soprattutto un'operazione di tipo mediatico, perché quando si arriva in una località, auguri anche a lei, grazie, scusi, ho salutato una persona, no, quando si arriva a fare un'operazione di questo tipo in forza in questa maniera, a me è sembrata molto un'operazione mediatica per dire guardate, stiamo tassando, aumenta la benzina, aumentano le bollette, aumenta l'autostrada, però sappiate che comunque andiamo a controllare anche chi però, vedi, sta vedi, un po' meglio, vai, cosa dico io, se non le fanno le operazioni e non le fanno, se le fanno è perché si vogliono fare pubblicità, dobbiamo deciderci. Le voglio chiedere un commento alla frase di Cicchitto, il capogruppo del PDL, credo al Senato, che parla per questa questione di una concezione, operazione ispirata a una concezione ideologica del controllo fiscale. Voglio chiedere se la condivide questa affermazione, però dopo il traffico. In diretta con il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Andrea Franceschi, stiamo commentando il blitz dell'Agenzia delle Entrate che nei giorni tra Natale e l'ultimo dell'anno ha fatto discutere. Le volevo chiedere se condivide l'affermazione di Cicchitto, che secondo me si lancia in un paragone un po' spericolato, perché dice, fa un paragone con le bombe a Equitalia, dice non si può scherzare con il fuoco e neanche con le parole, quindi ieri Grillo ha commesso un gravissimo errore, anche perché ci troviamo a fare i conti con un inizio di operazioni terroristiche fatte nei confronti di Equitalia. Detto tutto ciò, anche perché in materia non è possibile commettere equivoci, coloro che sovrintendono alla lotta all'evasione fiscale, e quindi fra essi in primo luogo il dottor Befera, devono anche avere la consapevolezza che operazioni come quelle fatte ieri a Cortina, con controlli a tappeto rispetto a tutta un'area perché presumibilmente popolata in queste vacanze da ricchi, sono del tutto inaccettabili e chiaramente ispirate ad una concezione ideologica del controllo fiscale. Franceschi. Oddio, ovviamente è una dichiarazione un po' forte, diciamo che l'approccio mio dell'amministrazione, insomma, è diverso da quello dell'onorevole Cicchitto. Noi abbiamo contestato solo il modo, non il fatto che vengano fatti dei controlli. Poi voglio puntualizzare una cosa, il fatto che l'agenzia del territorio si metta in un bar a controllare dalla mattina alla sera gli scontrini non è che trova l'evasore, vuole semplicemente vedere se il barista ovviamente batte tutti gli scontrini per poi fare dei raffronti, però ecco, voglio dire, i raffronti si possono fare in qualsiasi periodo dell'anno, anche sì, questo è un certo tipo di controllo, credo che abbiano fatto anche il controllo sui clienti, non solo sugli operatori, ma insomma va bene. Io la ringrazio, Andrea Franceschi, sindaco di Cortina d'Ampezzo, e buone vacanze. Lei è in vacanza? Buone vacanze e buon controllo adesso a tutti, qua sono passati, adesso verranno in giù perché lo stivale è lungo. Scenderanno, sì, è giusto che scendano. Grazie, buona serata. E allora riprendiamo con i vostri interventi, anzi prima no, sentiamo i titoli del TG della 7. I parlamentari italiani sono davvero i più pagati d'Europa? Sembra proprio di sì a leggere il rapporto della speciale commissione istituita 6 mesi fa dal precedente governo. Lo Stato spende per un deputato almeno 20.000 euro al mese. Si riaccende così la polemica sui costi della casta. Ma quali super stipendi si difendono i politici? In una nota Montecitorio comunica che lo stipendio al netto è di 5.000 euro, inferiore a quello di tanti paesi europei. Il Presidente del Senato sottolinea la provvisorietà dei dati, poi in accordo con Fini ribadisce l'impegno a ridurre le spese entro la fine di gennaio. Sulla riforma del mercato del lavoro, primo braccio di ferro tra governo e sindacati, la CGIL si impunta e dice no a incontri separati con l'esecutivo. Monti non faccia come l'ex ministro Sacconi, avverte la Camusso, ma il premier tira dritto, gli incontri saranno bilaterali. Sul tema dell'occupazione interviene Napolitano, sono da ripensare gli ammortizzatori sociali. Ispettori del fisco a Cortina, Nonostante per il secondo giorno consecutivo la Banca Centrale Europea abbia acquistato i nostri titoli di Stato, il differenziale BTP decennale Bund tedeschi resta sopra quota 500. Come mai? E perché il prezzo della nostra benzina è costantemente il più caro in Europa? Ormai sfiora l'euro e 80 centesimi. Cercheremo di capirlo insieme. Capire le ragioni delle violenze? No, sono da condannare e basta. Cicchito, Bersani replicano a Grillo, che ieri sul suo blog aveva scritto che bisogna capire il perché di certi gesti, pur rifiutando la violenza. Equitalia deve essere migliorata, ma non posso dar ragione a Grillo. Qui girano pallottole, bisogna stare attenti, dice il segretario del PD. Gli ispettori del fisco a Cortina, una ottantina di funzionari in borghese dell'Agenzia delle Entrate piombati in questi giorni nella località più famosa delle Dolomiti per effettuare controlli a tappeto e stanare eventuali evasori, un'iniziativa che ha già sollevato le proteste, ovviamente, delle autorità locali. Nuove polemiche sulla commessa da 13 miliardi o 15, secondo altre fonti, per l'acquisto entro il 2026 di 131 cacciabombardieri. Il PD chiede di uscire dal programma, non si tratta di uno sperpero, sostiene invece l'UDC, c'è un evidente ritorno industriale. Tuttavia, vista la crisi, è consigliabile rinegoziarne almeno il numero. Resta in silenzio il ministro della Difesa. Stavo leggendo qualche commento su Facebook alla questione di Cortina, adesso non lo trovo più, un paio di commenti, quanta demagogia sulla questione di Cortina, bla bla bla bla bla, bla. Va bene, questi alcuni vostri commenti, anche al 349-238-6666. Andiamo agli ascoltatori, in linea Maurizio dalla provincia di Viterbo, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Volevo ritornare al discorso dell'orario d'apertura dei negozi. Sì. Pronto? Sì, sì, sì. Ecco, no, nella prima parte del programma ho sentito un intervento, in particolare quello di Ferrara, in parte anche un commento suo che cercava di creare un'analogia tra l'orario d'apertura e un eventuale aumento dell'occupazione. Ecco, secondo me il problema è questo, non vedo questa analogia, non vedo come l'apertura così estesa dell'orario dei negozi possa portare un incremento dell'occupazione, siccome il problema dell'occupazione è talmente serio, ecco, credo che non possa essere trattato così per slogan. Ma per esempio, facciamo un esempio, io però non sono sicurissimo, nel senso che credo che il problema dei negozi sia più per favorire i consumi che non per creare posti di lavoro. Però dipende. E questo va visto, però diciamo, quindi è questa la motivazione. Per quanto riguarda il discorso dell'occupazione, non lo so, io ho letto oggi un articolo che parlava delle reazioni dei sindacati al centro commerciale di Orio al Serio, nei pressi dell'aeroporto di Bergamo, e dicevano che avrebbero aumentato l'orario di 2 ore di lavoro. E credo che aumentando l'orario di 2 ore si creerà una turnazione forse diversa, può darsi che ci sia qualche assunzione in un centro commerciale dove ci sono molti dipendenti, è chiaro, poi i piccoli negozi devono fare i conti e questa è la vera questione, perché può darsi che chi ha un negozio ed è da solo non riesca a tenere aperto di più perché non può assumere una persona, però in quel caso non è obbligato. In genere l'occupazione viene creata dall'aumento dei volumi d'affari, quindi dall'aumento della redditività, sia per i piccoli che per i grandi negozi, e non necessariamente dall'estensione dell'apertura, anzi molto spesso l'occupazione è un costo che crea pure problemi alla gestione dell'attività. E poi le volevo dire, riguardo al problema che lei ha giustamente più volte sollevato di non trovare negozi aperti verso le 18-17.30, come diceva, no? Ma l'attuale normativa prevede l'apertura dalle 7 alle 22, per cui se non viene rispettata neanche l'attuale normativa, un'ulteriore estensione di questa normativa... Non farà male a nessuno però, mi scusi, perché se non lo fanno adesso che si potrebbe lavorare fino alle 22, non lo faranno neanche dopo, io rimarrò deluso, però non cambia nulla. Quindi sì, perché va bene, però lei può comunque, usufruendo già dell'attuale normativa, potrebbe comunque trovare già oggi i negozi aperti fino alle 22 della sera, questo è. Sì, va bene. Grazie Maurizio, grazie. Grazie. Buona serata. E allora dove andiamo? Andiamo, che facciamo? Io ho paura di andare a Foggia, c'è un ascoltatore perché sicuramente parla dell'aeroporto. Però in 30 secondi, prego. Prego. Angelo. Niente, ci tenevo a fare una precisazione, visto che ho sentito prima parlare dell'aeroporto di Foggia. Ecco, nella realtà il finanziamento che questa società avuto va salutato in questo caso come una cosa positiva, in quanto tutti gli aeroporti in generale fanno delle politiche di marketing, quindi stanziano dei soldi, generalmente in collaborazione con gli enti locali, per attirare lì dei voli delle compagnie. Tutti i voli di Ryanair sugli aeroporti minori, ad esempio, vengono attirati in questo modo. Per cui a Foggia va salutato positivamente l'arrivo e l'accordo di questo contributo, in quanto la struttura aeroportuale già esiste, quindi l'investimento dell'aeroporto è già un investimento. Sì, ma il problema è che non ci sono compagnie nell'aeroporto di Foggia attualmente. Questo accordo è perché la Air Valle si è detta disponibile in funzione di questo contributo a venire a Foggia, cioè le segnalavo proprio questo. Ah, ok, quindi diciamo in prospettiva c'è l'Air Valle che dovrebbe servire, chissà per quanti, chissà quanto sto 1,5 milioni o 15 milioni di euro, poi che poi non si capisce quanti sono. Non ci sono mai stati, questo lo do per certo. No, c'è 1,5 milioni, però la stampa calcola che anche attraverso agevolazioni e altre cose il titolo parla di 15 milioni, ma fermiamoci al 1,5 milioni stanziato dalla regione con i soldi dei cittadini pugliesi. Chissà Air Valle quanti voli farà e quanto costerà a volo e a passeggero questo finanziamento. Staremo a vedere. Oh, grazie Angelo. Andiamo a Franco che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto volevo fare i complimenti a lei e alla trasmissione. Grazie. Che finalmente conduce, insomma, con tanta pacatezza e con il rispetto quantomeno dell'interlocutore, quindi non c'è l'aggressività alla quale siamo abituati. Allora, detto questo, volevo parlare della demagogia, cioè mi sembra che insomma alla fine noi sull'evasione fiscale, sui costi dei deputati, eccetera, alla fine guardiamo sempre la pagliuzza, ma non riusciamo mai a guardare la trave. Io non ho mai sentito in nessuna delle trasmissioni radio televisive sentir parlare del costo del palazzo, quanti dipendenti ha Palazzo Chigi, quanti ne ha Montecitorio, quanti ne ha il Quirinale e quanto costa l'affitto di questi immobili, che mi pare che, non so se tutti o qualcuno, mi sembra che sia proprio veramente in affitto. Ho sentito parlare di milioni di euro, comunque qualcuno faccia luce e ci spieghi questo, ci dica questa cosa. L'altra questione è sull'evasione fiscale. Sempre nelle trasmissioni radio-televisive si sente parlare sempre dell'idraulico, dell'elettricista, del calzolaio, di queste persone che secondo me a fatica riescono a portare a casa il pane, la loro giornata. Mi sembra che su questo non si riescono a guardare invece i grandi evasori. Cioè si guarda sempre il piccolo, non si riesce a guardare il grande. Il grande comunque è controllato perché lascia lo scontrino fiscale, parlo dei centri commerciali, i grandi negozi, invece molto spesso si sente parlare del piccolo. Il piccolo secondo me è in grossa difficoltà. Se qualcuno fosse accanito nei suoi confronti, quindi forse gli avrebbe rivisto il meccanismo fiscale, probabilmente dovrebbe chiudere bottega e andare di nuovo anche lui sulle spalle, diciamo così, del contribuente. Terza cosa, voglio dire, per quanto riguarda Cortina, io non sono mai stato a Cortina e forse non mi potrei permettere una vacanza. Certamente mi sento d'accordo con il sindaco quando parla di modi. Questi modi ai quali comunque spesso nei scoop sui giornali o la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate o i meccanismi l'INPS, l'INE, eccetera, fanno questi controlli così un po' plateali. Ma perché se l'avessero fatto ad aprile con i nominativi, diciamo, degli ospiti o comunque, ma lei pensa che sarebbe stato diverso andare a vedere chi arriva? Grazie Franco, non lo so, io dico l'ultima soltanto cosa, sì, no, cosa, dobbiamo chiudere Franco, Masi, in 10 secondi, Masi, 10 secondi, sì. Sì, 10 secondi. Allora, De Masi io lo sento spesso, dice sempre le stesse cose, ma lo sento con piacere perché fa sorridere. Lui vive veramente in un altro pianeta. Grazie, grazie. Ancora complimenti. Grazie a Franco. E va bene, siamo in chiusura, assolutamente. Grazie a Laura Marchesi, a Viola Bottoni in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Ci risentiamo domani dopo le 18. Buona serata a tutti.